Intenderemmo, io intenderei lavorare questa mattina fino verso l'una meno un quarto, credo, insomma, quest'ora qui. Dopodiché si fa una pausa, si va qui di fronte in un'altra villa dove delle suore già predisposte ci hanno preparato una colazione, eccetera. Poi riprenderemo verso le 2:30, 3, non lo so, in modo da chiudere. A metà pomeriggio, verso le 5, immagino, insomma, questo dipenderà dall'andamento della discussione. Detto questo, qui da un punto di vista organizzativo, io ringrazio anche a nome così, degli organi, diciamo così, direttivi di questo istituto, c'è il professor Corsini che è il decano della direzione, che si scusa, arriverà più tardi e così via. Ringrazio tutti quelli che hanno accolto questo nostro invito a venire in una stagione così poco propizia, perché in fondo è il 30 di giugno, le università sono quasi tutte chiuse e così via. Io sono sempre stupefatto di questa accoglienza che le nostre proposte, quando le facciamo, tutto sommato trovano. Delle persone che noi avevamo invitato, direi che sono venute tutte quelle che più ci interessavano, non sono venuti, diciamo così, i rappresentanti più anziani della medievistica italiana, che però si sono tutti scusati con molta partecipazione. Ecco, questo vale per Violante, vale per Tabacco, vale per Capitani, vale per la Fasoli, vale per Elze. Non sono venuti i tedeschi che erano stati invitati, e anche qui con giustificazioni estremamente tutte controfirmate dalla mamma, dal papà, eccetera. Havercamp, per esempio, non ha potuto venire da Treviri, Mitterauer non ha potuto venire da Vienna perché proprio oggi era relatore di una dissertazione, Riedmann non è potuto venire da Innsbruck perché, eccetera, eccetera. Comunque, a parte queste non presenze, queste assenze, che sono molto qualificate, ma che alla fine, secondo me, sono anche un po' liberatorie per gli scopi che noi ci proponevamo in una riunione come questa, direi che quelli che sono qui, che vengono poi da tutte le parti, perché c'è gente che viene da Trieste, da Torino, da Roma e così via. Quindi davvero io vi ringrazio e mi scuso in anticipo se poi sarà deludente forse l'esito di questo incontro. Cioè, io ormai, da quando sono venuto a Trento, mi sono un po' fatto prendere la mano da una certa leggerezza organizzativa, nel senso che mi sto abituando a organizzare delle cose un po' alla spera in Dio, sperando appunto che funzionino. Finora sono abbastanza funzionate, però tutto sommato finora mi sono anche mosso in un campo che conoscevo meglio. Stavolta qui mi muovo nella medievistica. Io non sono, come voi sapete, niente affatto esperto di queste cose qui, però c'ho la Gabriella Rossetti, che è qui appunto vicino a me, che dovrebbe dare una garanzia da questo punto di vista, no? Lo scopo di questa nostra riunione qual è? Lo scopo di questa nostra riunione è di fare veramente ed esclusivamente solo una discussione libera, a ruota libera, sopra un tema che è un tema che insomma, in un modo o nell'altro gira continuamente, continuano a uscire volumi sopra questo argomento qui della stratificazione o della composizione delle classi politiche o dei ceti dirigenti nel Medioevo, continuano ad esserci incontri, dibattiti su questo argomento. Allora, l'obiettivo che noi ci siamo posti è stato quello di vedere tra esperti di queste cose se era possibile fare il punto, insomma, delle rispettive ricerche, dei rispettivi punti di vista, cioè di confrontare, se era possibile confrontare i risultati parziali a cui ciascuno è raggiunto. Ecco, per realizzare questo scopo qui della discussione, che quindi non ha evidentemente la necessità di arrivare a degli esiti definitivi, ma che è solo un momento di dibattito, di apertura di qualche cosa che poi deve per forza continuare e così via. Per arrivare allo scopo della discussione, come si doveva fare? La prima ipotesi era quella di organizzare delle relazioni, no? Un paio o tre di voi che venissero a fare la relazione su quello. Mi sembrava che questo bloccasse, insomma, un po' l'iniziativa. Allora ho preferito trovare un mezzo per entrare subito nella discussione. Ecco, da qui viene la scelta di questo pezzo del Mitterauer che ha suscitato sorpresa, perplessità e così via. Non è che lo risultava, mi pare, anche dalla lettera che ho mandato. Vi invito, non è che lo scopo fosse di discutere il testo del Mitterauer in quanto tale, che peraltro a mio avviso è un testo estremamente positivo e discutibile, cioè suscettibile di discussione, quindi si potrebbe anche fare, ma non era quello lo scopo. Cioè lo scopo era di prendere il pretesto da questo testo di Mitterrand perché poi ciascuno di noi entrasse nel vivo delle sue problematiche di ricercatore in ordine al tema molto generico che è stato individuato come tema centrale della discussione di oggi, i ceti dirigenti del Medioevo, e da lì si facesse la discussione che doveva arrivare a trattare sia momenti di tipo specifico relativo alle singole ricerche che ciascuno sta facendo, ma anche evidentemente doveva coinvolgere le questioni metodologiche che stanno dietro. Quelle questioni metodologiche che appunto nel saggio di Mitterauer, bene o male, molto o poco, sono messe in luce. Ecco. Quindi questo qui va precisato perché altrimenti rischiamo di fare, come abbiamo già incominciato, una specie di pre-congresso che abbiamo fatto stamattina presto a Luna, a casa mia, con Camarosano, cioè che ci mettiamo a discutere sul Mitterauer, cosa interessa niente, interessa capire se da lì possiamo noi avere degli stimoli per ricostruire una situazione che stiamo studiando, che comunque ci interessa. Ora, è stata una coincidenza, però è una coincidenza fortunata, ed è anche, secondo me, un riscontro della positività e del significato di questa riunione che noi abbiamo programmato da più di un anno, che proprio la settimana scorsa a Pisa sia stata presentata questa opera dei pisani, Rossetti, Pratesi, Garzella, Guzzardi, Lugliè, Sturma, ma soprattutto Garzella e Rossetti, che tra l'altro sono entrambi qui presenti, quest'opera che per l'editore Pacini è intitolata Pisa nei secoli XI e XII, formazione e caratteri di una classe di governo, no? Questa presentazione si è svolta mediante una tavola rotonda nel corso della quale effettivamente si sono già, mi pare, presentate molte delle questioni che oggi dovranno per forza tornare fuori. Ci sono stati interventi articolati, grossi, insomma, no? Di Violante, per esempio, e poi le risposte della Rossetti, eccetera, eccetera, che hanno evidenziato la problematica insita nell'uso per questioni medievali di categorie come quella appunto di ceti dirigenti piuttosto che non di classe politica. E si è visto come effettivamente la stessa discussione sulla correttezza di relativa all'impiego di queste categorie per il Medioevo, anche in una discussione breve come quella di sabato scorso, portava a approssimazioni di conoscenza sempre maggiori. Quindi è una strada che vale la pena di percorrere, no? Ora, a parte il fatto che consiglierei a tutti quanti quelli che sono qui l'acquisto per i rispettivi istituti di questo libro che è costato soldi e che quindi va acquistato, insomma, no? Dopo distribuiremo dei gemblian illustrativi, eccetera, rimane il fatto che appunto la coincidenza di queste due occasioni, a mio avviso, rafforza il discorso che sta dietro alla nostra iniziativa. Noi abbiamo fatto, e ve l'ho mandato a quelli che l'hanno richiesto, l'ho mandato no, un anno e mezzo fa, abbiamo invece organizzato un altro seminario di questo tipo sul problema dei ceti, fondamentalmente dei ceti dirigenti, però nella prima età moderna, no? E anche lì c'è stata questa grossa discussione, un dibattito abbastanza serrato, abbiamo pubblicato quei modestissimi atti che abbiamo spedito, e allora. Poi da lì però siamo arrivati a occuparci, cioè il problema a noi dell'Istituto Storico Italo-Germanico e della Facoltà di Sociologia Storica, della Facoltà di Sociologia di Trento, eccetera, il problema che a noi interessa, qual è? Evidentemente non è tanto il Medioevo piuttosto che non l'età moderna, è soprattutto il problema dei ceti dirigenti, cioè quello che a noi interessa, la linea che noi vogliamo un minimo tentare di seguire è di capire in che modo, insomma, in un contesto culturale omogeneo, in un contesto culturale in cui sia possibile l'impiego di categorie uniformi e così via, come quello occidentale, in che modo si possano individuare delle linee di formazione di due questioni. La prima è quella che riguarda la stratificazione sociale in quanto tale, cioè le modalità attraverso le quali gli uomini si classificano, si gerarchizzano, si scalano tra di loro, cioè si pongono lungo quelle tre bellissime, quei tre bellissimi livelli che sono i maiores, i medi e i minores, i pariteco e i minores. A me piace moltissimo questa formula qui, no, che è banalissima, ma l'ho scoperta appunto. È un problema di stratificazione, quindi un aspetto di tipo puramente sociale, se possiamo dire così, che ci interessa. Ma poi l'altro livello che ci interessa è quello di individuare invece il modo come questa stratificazione o le diverse stratificazioni che si succedono storicamente si traducono in funzioni politiche. Cioè in che modo da determinate stratificazioni vengono fuori determinate classi politiche, determinati ceti dirigenti, determinati gruppi dominanti, capaci di tradurre sul piano politico e sul piano istituzionale il loro dominio in attività organizzative, in attività di governo. Questi due aspetti, che sono quello della stratificazione e quello del governo, che sono due aspetti separabili ma contemporaneamente evidentemente anche unificabili, sono i due aspetti, guarda caso, che stanno alla base di un concetto fondamentale della sociologia e della scienza politica moderna, che è il concetto di classe politica. Il concetto di classe politica, così come è stato elaborato a livello scientifico, e non a livello giornalistico, ma a livello scientifico, da Gaetano Mosca e poi ripreso dagli altri grandi elitisti italiani, il concetto di classe politica implica questa doppia costruzione, questa doppia struttura, quella relativa alla diversificazione sociale e quella relativa all'organizzazione. Questo è il punto decisivo. Ecco che allora da questo punto di vista noi ci troviamo di fronte a tutta una rete di problemi che dobbiamo dipanare, insomma. Cioè il discorso dei ceti, piuttosto che non il discorso della classe politica o delle classi politiche, diventano dei discorsi relativi. Cioè diventano dei discorsi che si possono fare contemporaneamente, mi pare a me, perché sono delle proposte che semplicemente mi limito a sottoporre un po' alla discussione generale. La riflessione sui ceti, sulle classi e sulle classi politiche si può fare sia in termini generali, sia in termini assoluti, cioè in termini di categorie, che sono semplici strumenti di ricerca, che quindi non denotano in modo a prioristico nulla, che servono solo a dar senso a dati che poi la ricerca storica analizza e interpreta, ma questi concetti possono essere impiegati anche per andare a relativizzare i fatti che si incontrano e che si vogliono studiare. A razionalizzare, a dargli senso, a dargli spiegazione, a dargli contenuto, a dargli interpretazione. Questo discorso qui è quello che secondo me oggi bisognerebbe che venisse fuori. Cioè bisognerebbe che venisse fuori sia la consapevolezza del carattere scientifico, metodologicamente ermeneutico di queste categorie da una parte, ma bisognerebbe che venisse fuori anche in relazione alle singole ricerche come questi strumenti producono effetti, cioè che tipo di risultati danno. Per il Medioevo, ecco, il Medioevo non vuol dire forse nulla, apposta è stata usata questa espressione così vaga, in modo da non definire né in termini cronologici né in termini spaziali l'ambito della nostra discussione. Io credo che qui siano rappresentate esperienze sufficientemente larghe perché si possa parlare di tutto, insomma. Quindi spero che il dibattito sia il più ricco possibile, tutti mi auguro prenderanno la parola e porteranno un po' quello che è frutto della propria esperienza, non abbiamo nessuno che ci censura, cioè siamo veramente abbastanza liberi, non c'è nessuna occasione ufficiale, è proprio un incontro tra amici, sarebbe bello che avesse successo perché se ne potrebbero fare degli altri, insomma, così per invio, come dicevo all'inizio. Adesso direi se la Gabriella volesse magari intervenire ponendo qualche problema, precisando qualche sciocchezza che ho detto, eccetera, eccetera. Sarebbe utile. Dunque, io devo dire che la sorpresa ovviamente me l'ha fatta all'ultimo momento, sapendo che sono una pianta grane e che magari gli dicevo di no se me lo diceva due minuti prima. lui me l'ha detto sabato scorso, perché così, siccome agli amici, soprattutto i vecchi amici, si danno le gatte da pelare, è chiaro che la nostra amicizia è tanto vecchia che doveva ricascare su di me, insomma, questo è indubbio. E questo è sacrosantamente vero. Io non è vecchissimo, voglio dire, allora 15 anni. Ebbene, ma sono mica poco. Comunque, questa è la vera storia della questione. Ad ogni modo, io mi limito semplicemente a smistare il traffico, come mi ha chiesto lui di fare, ovviamente proprio per rompere il ghiaccio, a partire, diciamo, con una serie di quesiti che a me sono nati dalla lettura di Mitterauer. Lascerei per ultima le risposte che io evidentemente, da parte mia, ho ai problemi posti. Direi che alcune, con una maggiore precisione, il che dimostra con maggior precisione di quanto non fosse la prima volta che ci siamo incontrati io e Piero, prima di quell'incontro di sabato, alcune risposte le ha già prefigurate in qualche modo e sono venute un po' fuori anche dall'incontro di sabato passato. Cioè, mi sono reso conto nel discorso di Piero adesso che sono incluse alcune delle risposte già in qualche modo, c'è una prefigurazione di alcune risposte. Comunque, Io invece raccoglierò proprio la sfida, diciamo, che è stata lanciata con la lettura di Mitterauer. E la raccoglierò in questo modo, cioè ponendovi una serie di quesiti a cui non do alcuna risposta, però ponendoli in un certo modo per capire se a voi stessi è suscitato la medesima reazione che a me. Ma poi magari in base alla risposta che date alla fine cerchiamo poi di raccogliere le file e vediamo se tutti quanti ci siamo posti in una certa direzione oppure in un'altra. Io ovviamente non posso testimoniare che i quesiti che la lettura di Mitterauer era posto a me. Ora, io per prima cosa mi chiederei se è corretto dal punto di vista storico, e cioè dal punto di vista dinamico, la storia è storia di modificazioni, porre il problema della stratificazione, sulla base dei contenuti, cioè vedere se ci sono dei contenuti che rispondono, vedere se ci sono dei contenuti che, per i quali, diciamo, dei contenuti che rispondono al concetto di stratificazione così come la sociologia l'ha elaborato. Ecco, secondo me, dal mio punto di vista, forse non è corretto. Allora io ve lo chiedo, è corretto porsi dei contenuti precisi e cominciare a dire per la famiglia sì, per la signoria no, per il feudalesimo no e via dicendo? Questo, a mio giudizio, è un modo errato di porre il problema, perché c'è metodologicamente un problema originale, prioritario, che è quello di chiedersi innanzitutto questo tipo di categoria, come può essere la stratificazione, se è riferito a tutta la realtà sociale, alla struttura sociale, o se non è già riferito ad un momento della modificazione, che è il momento politico. E che quindi, se questo concetto di stratus è applicabile ad un momento particolare di questa dinamica. Ecco, io ve lo chiedo e me lo sono chiesto. Altro problema io porrei allora è questo: se è vero che è riferibile ad un particolare momento, cioè ad un particolare momento della modificazione, ad una particolare dinamica, allora è chiaro che non esiste il problema applicabile al Medioevo, non si può porre il problema applicabile al Medioevo. Se esiste come concetto generalizzato, deve essere applicabile ad ogni epoca. Ad ogni epoca, sempre che siamo d'accordo che quindi, detto questo, c'è da chiedersi, evidentemente la definizione di strato se è venuta fuori nel paragone con tutte con altre definizioni, è stata desunta, non è questo, si è detto, non è quest'altro, e quindi è chiaro che comporta la definizione anche delle altre categorie. Ecco, siamo d'accordo sul modo in cui sono state definite? Mi riferisco ai concetti di classe, ai concetti di status, al concetto di dunque classe, status, ceto, al concetto di ceto, al concetto di no, perché quello è un contenuto, non è una categoria, al concetto di ceto e così via, insomma, adesso non, al momento non mi vengono in mente tutti, ma evidentemente la definizione di status è stata per esclusione, mi pare, attuata, è stata definita per esclusione, il che quindi ci comporta alcuni problemi. Per lo stesso si è caduti anche nel concetto, nella definizione, a mio giudizio, del concetto di classe, si è caduti in un equivoco da parte di Mitraue, o almeno a me è parso che si sia caduti in un equivoco, cioè lui l'ha utilizzato tanto nel significato marxiano del termine, diciamo così, no? Cioè in fondo una coalizione di interessi, che, che fa sì che si crei il gruppo, e allora in questo caso siamo al livello del primo stadio dell'organizzazione, della modificazione politica, e l'ha definito però anche nell'altro modo, e cioè quello che noi possiamo chiamare classe politica, e quindi sarebbe riferito a una presa di a un momento successivo, che è quello della stabilizzazione, diciamo, di un potere che in qualche modo si è già acquisito. Saremmo a livello politico, non saremmo più a livello di organizzazione socio-economica. Quindi per esempio per il concetto di classe. Ora mi pareva di avere molto più cose da dire riguardo ai contenuti. Riguardo ai contenuti, anche questi stessi contenuti sono stati di natura tanto diversa da non poter essere, cioè effettivamente sono state accostate categorie molto diverse tra di loro, perché dico, non posso mettere io famiglia sul piano di feudalesimo o cose del genere, perché famiglia, come viene trattata qui, evidentemente non è il nucleo primario, diciamo, di organizzazione sociale, in qualche modo, che può avere anche nessuna implicazione politica, ma è evidentemente già la famiglia intesa in senso politico, cioè la famiglia che è organizzazione politica di fatto, cioè o la famiglia che è la famiglia allargata, che è la consorteria, che è anche la famiglia di consanguini, anche la famiglia diciamo allargata, ma nel significato di unità, come è quella del tipo che viene descritto appunto in unità di famiglia allargata, ma sempre discendente da un unico ceppo, ma comunque una famiglia che è in funzione politica, che si organizza e che mantiene la sua unità, cioè che la sua unità trova proprio trova la capacità di coesione nella volontà politica, di mantenere il potere. Quindi anche questa distinzione nel lavoro di Mitraue non è chiaro, e allora è evidente che nasce confusione anche nelle deduzioni che ne vengono tratte. Aggiungiamo questo, che diciamo è fallito lo scopo, a mio giudizio, di dimostrare la possibilità di applicare le categorie sociologiche alla storia, non perché le categorie sociologiche non siano applicabili alla storia, ma perché non è la storia quella che ci è stata messa davanti. Cioè le categorie sociologiche, qui io tento una spiegazione che non so se è esatta, ma ecco, vorrei sollecitare appunto anche la discussione su questo punto. Le categorie sociologiche, diciamo, siccome il sociologo lavora sul futuro e sul futuro immediato, le categorie sociologiche sono statiche per il sociologo, cioè sono applicabili hic et nunc. Per lo storico la categoria sociologica è applicabile a un discorso solamente dinamico, e in fondo la sociologia è il futuro della storia, in qualche modo. Ora, che lo storico l'applichi al passato, però evidentemente ha davanti, dal punto di vista nel quale si colloca, un futuro molto più lungo di quello che ha davanti il sociologo. Non so se sono riuscita a spiegarmi, ma evidentemente se io cerco di applicarlo all'undicesimo secolo, è chiaro che io ho tutti i secoli dall'undicesimo in poi davanti, che sono il futuro del momento al quale io mi applico, cosa che al sociologo non capita. Quindi tutte le volte che il sociologo cerca di applicare dimentica la dimensione dinamica della storia tutte le volte che cerca di applicarlo al passato, perché una delle cose più diciamo sulle quali io insisterei di più e che mi sembrano più sbagliate nelle cognizioni così comuni che corrono è che il passato è finito, non è modificabile diciamo, e quindi è perfetto e quindi come tale in qualche modo anche involontariamente viene visto abbastanza staticamente, insomma. Ecco, non so se io sono riuscita ad essere efficace in quello che ho voluto dire. Alcuni concetti mi pare che a me stessa debbano essere ulteriormente chiariti, sono andata dietro a qualche intuizione, ecco, proprio perché così fa comodo avere un obiettivo polemico, fa comodo avere dei punti di riferimento, diciamo. Sì, d'altra parte questo era proprio l'idea, ecco, quando lo scopo appunto per cui era stato proposto per questo, insomma, sì. Era più comodo, ecco, c'è a disposizione. Adesso io vorrei, insomma, non, mi sembra di aver già rubato troppo tempo nel porre questi quesiti, ovviamente non significa che si debba discutere sui quesiti che ho posto io, cioè se ne possono aggiungere molti altri ed alcuni, ognuno di noi deve fare la stessa cosa che ho fatto io, non è un'indicazione guida quella che io ho voluto dare, sono semplicemente i problemi che la lettura ha suscitato in me. Evidentemente, avendo io già dato, almeno parzialmente, per l'esperienza ancora parziale che io ho fatto di queste cose, le nostre esperienze sono sempre parziali, lo sappiamo tutti, avendo già fatto delle esperienze al riguardo, io mi riservo poi, sollecitato da voi evidentemente, a dare le risposte che io a questi problemi darei in qualche modo. Ecco. Quindi io direi che si può cominciare. Sì, cioè se ci fosse adesso un primo giro, no? di appunto un po' confronto con opposizione, porre di nuovi quesiti. Ecco, appunto, con Mitterauer e adesso anche con quello che ha aggiunto la Rossetti, questo potrebbe essere utile, perché poi dopo invece potremmo, in un secondo giro, magari anche più largo, entrare nei meriti, insomma, delle ricerche singole, insomma, delle esperienze che ognuno ha, e verificare in concreto tutte queste problematiche. Quindi adesso, se qualcuno vuole dire qualche cosa ancora su Mitterauer, sarebbe utile, insomma, per chiarirci meglio, per dipannarci meglio. No, Bibi. No, perché io lo dico perché mi sono preparato l'altro volta su Mitterauer. Ho detto due volte perché non ci capisco molto per me. È la traduzione, mi scuso anche, la traduzione è stata fatta veramente in un giorno e mezzo da me, che sono un modestissimo traduttore. Quindi. E cioè mi sono posto proprio una cosa, vorrei dire quale fosse la portata di questo taglio, qua che mi sono scritto una paginetta che almeno mi dice vado là, diciamo ero scritto così, allora dopo, e così mi tolgo il pensiero. E così, allora mi leggo questa paginetta che ho scritto così di. Semplicemente quello che ho capito io di questo vitale, quali sono le preoccupazioni principali, diciamo, che mi sembrano che stanno alla base di questo taglio. E cioè, mi sembrano due sostanzialmente. Una è l'aggiornamento epistemologico nella ricerca sociale sul Medioevo, cioè a dire nuovi strumenti concettuali, consapevolezza della loro utilizzazione, rigore terminologico nella loro applicazione. E poi c'è l'altra cura e l'attenzione peculiare, è quella di. Si cerca di non proiettare realtà e idee moderne su quelle che invece la realtà della società medievale. Ora, ben considerare queste due preoccupazioni, sono intrinsecamente connesse e tali soprattutto appaiono se si considera come tenute evolvendo e sviluppando la ricerca storica. Parla lentamente, sta mangiandosi tutte le parole. E tenute evolvendo e sviluppando la ricerca storica nel corso di questo secolo, lo dico così schematicamente. Cioè, la ricerca storica, infatti, laddove ha progredito, e non credo mica tanto qua in Italia, cioè, laddove ha rinnovato i suoi paradigmi, lo ha fatto in una certa connessione, se non addirittura in un rapporto di subordinazione, con lo sviluppo delle altre scienze sociali ed umane, e cioè psicologia, antropologia, sociologia, economia, linguistica, psicanalisi e via discorrendo. Ora, da tutte queste scienze ha mutuato schemi concettuali, opinioni professionali e così via, e ha cercato di applicare a quelli che sono i suoi propri oggetti di studio, cioè la società medievale, oppure a un corpo documentario, diciamo così. Ora, è appunto in questa operazione di trasposizione che sorgono i problemi e che si affacciano i pericoli di cui si preoccupa l'autore, diciamo, di questo saggio. Trattandosi di trasposizioni, adattamenti di apparati concettuali fatti da storici, cioè da persone non specializzate nelle determinate scienze da cui quegli apparati concettuali venivano attinti, questi stessi apparati hanno subito delle volgarizzazioni Ed è così che si trovano disciolti, come denuncia l'autore, nel discorso storico, in qualsiasi discorso storico, per così dire, dei frammenti di teorie disparate di vario genere, talora anche contraddittorie, e comunque una quantità di regole empiriche, sociologiche, psicologiche, economiche, di altro genere, dove anche la confusione terminologica di cui si lamenta sempre questo autore. D'altro canto, già che l'apparato concettuale che dischiude l'oggetto, che lo dica con Habermas, che l'avevo letto su Habermas, e poiché l'apparato concettuale impiegato è tolto in connessione con altri oggetti, cioè descrizione per esempio di società primitive per quanto o industriali attuali, ecco la necessità dell'applicazione dell'apparato concettuale stesso all'oggetto storico considerato di una continua sorveglianza critica, in modo da non commettere quello che si chiamano i cosiddetti anacronismi. Voi sapete che la preoccupazione di evitare gli anacronismi sono da 50 anni a questa parte quelli principali nei problemi di metodologia storica, e cioè da non sopraffare l'oggetto storico stesso. Allora, di qui viene una necessità di una continua autocorrezione della vaga comprensione preliminare o della precomprensione, come dice l'autore, immanente per così dire nei misteri concettuali impiegati. Autocorrezione che avviene o dovrebbe avvenire nel corso, diciamo, di verificazione ermeneutica del corpus documentario dato. Quindi, appunto, il corpus documentario è l'oggetto dello storico. E che è il frutto, questa autocorrezione, o il risultato, o dovrebbe esserlo, della tensione dialettica che se ne sarga continuamente fra schemi concettuali da una parte e la materia del corpus concettuale indagato, che è una cosa che conviene sempre, no? Che fa un po' di storia. Allora, in questo senso, la situazione ottimale si avrebbe nel caso che la correzione retroattiva degli schemi impiegati da parte dell'oggetto indagato, della cosa indagata, del corpus, eccetera, sia tale che si aggiunga addirittura una costruzione di apparati concettuali ad hoc, cioè commisurati all'oggetto in questione. Cioè, teoricamente è una cosa un po' improbabile, però praticamente bisogna fare così. Allora, questo è il riferimento appunto che sostanziale, che il procedimento che suggerisce questo autore, che poi è lo sfondo epistemologico comune, diciamo, della ricerca storica di questi 50 anni, più o meno. Ed è praticato, diciamo, nella fattispecie specifica di cui si tratta, cioè la nozione di strato, formazione sociale del Medioevo. Questo sono, mi sembra, il quadro epistemologico di fondo che sta qua. Ecco, però viene la questione di mezzo. Cioè, poi c'è da dire il fare se di mezzo il massimo. Mi sembra un conto è dire bisogna fare così, bisogna fare così, bisogna fare così. Un conto è poi quando si mette lì a fare storia concretamente e risolve le difficoltà. Cioè deve fare delle proposte operative, deve proporre dei concetti, diciamo, dei concetti operativi. Allora, qui mi sembra che qui dice, quando la prima di strato dice non è applicabile al Medioevo, quale lavorata la sociologia moderna, mi sembra una scuola scontata. Poi dopo viene a proporre altre, oppure dice applicabile questa nozione semplicemente all'interno di certe formazioni sociali particolari, diceva, cioè le formazioni sociali particolari sono mi sbaglio quando sinceramente fa di tipo sociale comunitario, no, o comunale comunitario. Dice, sono due formazioni sociali peculiari del Medioevo, la società medievale, si chiama quella con la tedesca, non so, poi qui ricalca molto il voto, quel voto sapete che il capitano ha avuto fatto il primo tempo della medievale, quella convenzione di famiglia, eccetera. Quindi da una parte c'è la famiglia, da quell'altra altre, diciamo, altri tipi che si possono, tipi fondamentali, secondo me, sono quelle formazioni che lui chiama comunale comunitarie, comunale comunitarie, distingue di nuovo tre sottotipi. E dopo dice, diciamo, la stratificazione si può applicare questa nozione semplicemente a queste società cittadine di questo tipo che sono stratificate. Qui penso che, diciamo così, solo a questo tipo di formazione sociale si può applicare questa nozione di strato. E poi propone, lui dice, diciamo così, altri concetti operativi, storie non ho capito, cioè soprattutto quello di famiglia, quello di bordo, eccetera, così, e poi queste altre cose. Qui però il problema è quando si arriva a queste proposte qua, da qua sono sorte, danno sorte a qualche studio di Medioevo tedesco, questi tedeschi qua. E poi dopo c'è il problema quando si arriva al momento di vedere, di verificare quando si applicano ai concetti, cioè al corpus documentario, perché il problema sta lì. Cioè dopo io quando mi trovo di fronte a fare la ricerca, dentro la rossetta studia magari maiores, minores, maiores, mediocres, paritempio minores, oppure i nobles popolari, diciamo così, di una città, posso applicare questi concetti? Cioè, quando gli applico, diciamo così, che realtà mi danno? Oppure invece, diciamo, mi danno una realtà, diciamo così, che quelli che sono i rapporti sociali obiettivi, oppure invece, perché siccome si tratta sempre di vedere, se avevano di fronte un corpo documentario che chiama la presenza, un'immagine che loro stessi avevano di quella realtà e del funzionamento di quella società e della riproduzione dei rapporti sociali di quella società. Che so, e questo è il problema, questa divaricazione che si sempre fa, quelli che sono i rapporti sociali obiettivi e che determinano, diciamo, e poi quello che è il quadro istituzionale globale di riferimento, che quella società stessa, e cioè rimane quella società stessa di se stessa, che è poi quella che legittima, diciamo così, il dominio, il potere all'interno di certi rapporti sociali, che però sono, per certi aspetti sono obiettivi che quello fanno anche per conto loro. E dopo quando saltano fuori, quando si arrivano le rivoluzioni e mutano i quadri generali di riferimento, i quadri istituzionali, anche le immagini che una società di se stessa. Allora, io stavo leggendo per caso, stavo leggendo questo libro qua di Cubì. Qui c'è proprio un modello, allora qui si può fare una discussione veramente concreta. Perché qui abbiamo da una parte un grande storico che viene, diciamo così, e qui abbiamo, che conosce, diciamo così, attraverso anche la studio, che qui fa anche una distinzione tra due tipi di documenti, da cui si possono attingere certe cose e altri da cui si possono attingere certe altre cose. Cioè, la ricostruzione di certi rapporti sociali obiettivi, di certe rivoluzioni che sono state, dentro lui parla del XIX secolo, la rivoluzione feudale, di queste cose qua, che dice attraverso la lettura di documenti, anche notarili, si ricostruisce quali sono questi rapporti sociali da non obiettivi, per certi aspetti. Si vede che c'era un tratto di cavallari, di gente che salta fuori, si vede magari dei re imbecilli, diciamo dei imbecilli, e quindi saltano fuori gli stati principeschi, saltano fuori contemporaneamente una politica vescovile e monastica, che l'ordine di Rinascenza si propone certe altre cose, altrimenti sono signorie ecclesiastiche e signorie laiche. Cioè c'è tutto un complesso, si forma una rete di, diciamo così, di soggetti e di storici. Poi a un certo momento saltano fuori, che quella salta fuori a livello, diciamo, ideologico, dei grandi, dei grossi di Natale, dei ruoli di lavoro, di Cambrelli, saltano fuori dei modelli di società. Dei modelli di società, che sono per esempio quella cosiddetta trifunzionale, diciamo, che distingue la società fra laboratorio, solatore, sbellatore, eccetera. Ma dice, qual è? Sembrano cose banali, queste cose qua, cioè, sembrano schemi così che saltano fuori così nella mente di costume. Invece al di sotto, fa vedere come sono proprio schemi ideologici. Diciamo così, che cercano di giustificare in un mondo che era in crisi, diciamo così, cercano, diciamo, di giustificare un certo tipo di dominio. Allora, c'è alcuna gente che, cioè, utilizzando questo materiale che viene offerto dalla tradizione, che è nel sistema culturale, per cui la legittimazione deve essere sempre vista e pensata in funzione dell'aldilà, per cui l'ordinamento sociale che c'è in questa società è modellato su quello che c'è dell'aldilà, cioè sulle gerarchie che sono, diciamo così, state bene. Allora dice, a seconda rispetto delle varie porte, dei vari rapporti sociali che sono tra queste porte, dei vari rapporti di forza tra queste forze sociali, si hanno certe immagini della società. E dove avvengono queste impartizioni della società? Che però sono, diciamo, in progetti, oppure, diciamo così, proiezioni ideologiche, e che non sempre, diciamo, ricordano quelli che sono i rapporti sociali effettivi, oppure i progetti sociali. E questo mi sembra che dovrebbe rimanere un po' confusionato. Dunque, sulla base di questi discorsi, tenendo conto questa distinzione tra quelli che sono, diciamo, i rapporti sociali obiettivi, e poi quello che anche l'immagine che si dà questa legge, che poi si lavora sicuramente sulle immagini che sta dentro. Ottimo. C'era Pini che aveva detto che voleva subito. Sì, già che non gli ha detto che c'era preparato il testo. No, questo mi chiama, no, no, solo perché non vuole che mi chiama. Cioè, dico, vengo qua, se devo parlare, non è che parlo. Non è che mi sono preparato il testo, ma venendo qua in treno ho buttato giù qualche idea proprio pensando così per lo sviluppo della discussione per pensare. E vorrei ricordare una cosa autobiografica che all'inizio proprio dei miei studi, dopo appena laureato, mi misi, anche io un po' come l'Ausetti, come quelli che aveva fatto al suo tempo, all'Ausetti qualche anno prima, indegnamente, volevo verificare il concetto, o l'uso meglio del concetto di classe sociale nella storiografia medievale, tra fino al 200, no, la storiografia positivistica, la scuola economico-giuridica. Naturalmente mi misi a leggere qualche testo marxista, qualche testo della scuola marxiana, soprattutto il concetto di classe in Marx, passai a qualche lettura di sociologi, Burbidge, Sorkin, Ritorno e altri, e nell'insieme ricavare l'impressione che i filosofi non avessero ancora chiarito questi concetti, soprattutto proprio il concetto base, il concetto di classe. E anche il concetto poi distratto, quello suggestivo di Hegel. Oggi, dopo aver letto questo articolo di Mitterauer, mi rendo conto che non gli storici, ma i sociologi ancora non hanno, dopo 15 anni, non sono ancora arrivati a chiarire bene questi concetti. Ecco, allora questo fatto di discorso è un terreno pregiudiziale. Non rischiamo noi di rimettere in circolo un discorso tutto sommato a vuoto, cioè un discorso che vuole cercare di definire come categorie concettuali qualcosa che sappiamo già in partenza che non può comprendere, non dico soltanto la maggior parte, ma forse probabilmente nessuno dei casi concreti che conosciamo, che abbiamo in mente, che abbiamo studiato. E vi chiedo, cos'è valso combattere tanto contro la filosofia della storia, contro certe schematizzazioni, contro anche d'altra parte certe costruzioni giuridiche, quando sentiamo così disperatamente la necessità ogni volta di creare delle nuove categorie kantiane? Proprio perché la storia, come dicevo la Rossetti prima, è qualcosa di dinamico, perché di ripetibile, come sappiamo, perché vogliamo sforzarci a renderlo a tutti i costi uniforme, comprensibile, razionale, tutto sommato rassicurante. Ogni volta ricadiamo sempre in questo tentativo, in questa aspirazione. Sono d'accordo, d'accordissimo, mi pare ovvio che debba esistere, come si dice qua nel Mitterauer, un glossarium, un vocabolario di base standardizzato, perché è l'unico modo anche per fare progredire la ricerca storica. Ma secondo me non vedo nulla, non vedo un ostacolo al fatto di usare certe termini, diciamo così in questo caso solo termini, proprio concetti, che indicano sostanzialmente dei fenomeni che tutti conosciamo anche abbastanza bene, perché non variano poi molto col variare dei tempi. Quindi tutto sommato l'uso empirico di questi termini a me personalmente non disturba, e trovo anche che sia positivo, perché permette la generalizzazione del discorso, permette di vedere i fenomeni a tempo lungo. E quando parlo di ceto dirigente è un termine chiaramente empirico, un termine che avrà delle sfumature diversissime da momento a momento, da luogo a luogo, però è un concetto che posso estendere a tempi lunghi, perché nella sostanza poi vuole dire la stessa cosa. Ecco, per me è proprio questo diciamo, concetto, questo termine usato in senso largo, in senso non troppo definito, permette quegli accostamenti diacronici e sincronici che invece un termine troppo preciso, troppo sfumato, troppo carico di sfumature sue, diversificate, impedirebbe. Nel momento stesso in cui cerco di precisare il concetto di classe dirigente in un certo momento storico, in una certa zona geografica, se è precisa, ne faccio qualcosa... Hai già cambiato il vocabolo però, l'hai chiamato classe adesso, eh? E che avrei chiamato in una maniera molto diversa. Classe ceto, eh? No, ti ho avverto perché qui tocchiamo il punto, sì. Ti ho solo avvertito, dopo magari ne discutiamo, ma sì. Prima hai parlato di ceto, poi adesso hai detto la classe. Questo entra, direi, è una riprova. È una riprova della validità di vederti chiaro, perché, no, scusa, non ti interrompo più. Non ti interrompo più. No, allora, proprio su questo discorso, parlare di classi dirigenti, parlare di ceti dirigenti, parlare di gruppi di potere, parlare di classe di governo, è tutto sommato vuol dire la stessa cosa. No, scusami, no. Proprio brida. O comunque, se vuol dire la stessa cosa, è sufficiente per intendersi, per portare avanti un discorso. Nel momento stesso in cui noi invece vogliamo precisare, allora arriviamo a questo andare a vuoto, a questo non trovarsi mai. Io uso, direi che si può utilizzare anche concetti di nobiltà, di aristocrazia, di l'oligarchia grosso modo sempre nella stessa maniera. È finito? No, questo qui è un punto importante su cui immagino che si scatenerà e crociare. Il pregiudiziale è proprio per questo. Perché quando noi facciamo di questi concetti delle categorie astratte e non collimano, non le possiamo utilizzare con il prima, con il dopo e nemmeno con l'altro che avviene nello stesso momento in un altro ambiente. E così al limite io potrei dire che la novità non è mai esistita, secondo me. Non è mai esistita, almeno non è mai esistita in certe forme. Se per novità si intende quello che ho letto nel libro dei Patriziato, ad esempio, mi rendo conto che quella novità è esistita soltanto dal 500, dal 600 in poi, anche loro non sono d'accordo, forse dal 700, e allora il limite non è mai esistita, non so che l'abbia abolito la rivoluzione francese. Cioè, l'affermazione può sembrare così paradossale e assurda, ma anch'io sarei portato a sottoscrivere il fatto che la novità nel Medioevo non c'è. Se per novità si intende appunto quella che ha quelle caratteristiche, quelle peculiarità che non sono dell'età medievale ma sono dell'età moderna. Ma poi c'è anche un pericolo che forse tutto sommato è anche più grosso. Nel momento stesso in cui noi portiamo avanti il discorso del precisare il concetto, del verificarlo in un dato momento, di cercare una documentazione che possa sostenere l'interpretazione che vogliamo a questo concetto, arrivati alla fine di tutto il lungo lavoro, io ho paura che ci troviamo davanti dei risultati che in fondo sono scontati fin dalla partenza. Ci rendiamo cioè conto che, lo chiamiamo centro, lo chiamiamo classe, lo chiamiamo quello che vuole, chi sono, lo chiamiamo strato, sono quelli che avevano il potere, che avevano il prestigio, che avevano il possesso e queste cose. Cioè, tutto sommato, mi pare che alla fine del lungo lavoro abbiamo dei risultati che si potevano già con abbastanza precisione anticipare fin dall'inizio della ricerca. Visto che il continuo discorso su due punti, allora, uno, Bologna, io penso che dovrei dire qualcosa a questo proposito su Bologna. Su Bologna, purtroppo, devo dire che non posso dire niente per un problema di base. Cioè Bologna, la parte importante, secondo me il secolo decisivo per la trasformazione della società è il XII. Proprio per il XII secolo la documentazione è tutta inedita. Abbiamo dei paleografi che lo fanno il loro dovere, dopodiché tutte queste famiglie le conosciamo, ma le conosciamo tutte soltanto come dei puri nomi, non sappiamo dietro cosa ci sta, ad esempio non sappiamo quali sono i loro rapporti tra di loro, i rapporti col vescovo, quali erano stati i primi rapporti col conte. Ecco, il problema poi del conte, nella storiografia italiana si è un po' troppo generalizzata la questione comune vescovo, ad esempio, ci sono molti comuni che nascono in città nominati, non sono pochi, Pisa, Bologna, Verona, e qui credo che tutto il discorso sulla formazione di una certa oggetto, classe, dirigente, come lo volete chiamare, è diversa da quella che è nelle città invece, si dico questo. Un punto importante che rende mi trovo, perché forse a me è particolarmente interessato, cioè il problema di questi stati della diversificazione per età. Cioè mi trovo dice, non esiste un problema di diversificazione, di stratificazione per età. Non so se questo è proprio vero. E mi vengono da fare un'osservazione, proprio leggendo il Miserabile, quindi in questo caso è stato stimolante. E si usa il termine signore, no? E quindi fa pensare che i più vecchi avessero una maggiore autorità, un maggior prestigio, e su questo anche il Miserabile insiste. Ma secondo me il termine indica una società di tipo arcaico che non è più la società dell'età comunale. E infatti, nelle fonti invece che queste conosco del 200 bolognese, ad esempio nei lunghi elenchi degli anni alle armi, si mette vicino a un certo momento del suo denaro, il sene, impedito. Sembrerebbero dei puri eventi militari, chiaramente una 70 anni non può più andare in guerra, ma il fatto che non possa più combattere non vuol dire niente per il potere, per il prestigio, per l'effettivo partecipazione alla classe di governo. E invece vuol dire qualcosa e molto, perché negli statuti si prevede che chi è oltrepassa i 70 anni e comunque è impedito per l'esercito non può partecipare non alle magistrature con le esecutive, ma addirittura ai consigli, non solo, e questo già sarebbe, direi, molto, perché se uno ha 70 anni non è detto che non possa partecipare al consiglio, soprattutto se di una certa famiglia, di un certo ceto. Ma si dice di più, che questo tale non deve assolutamente esprimere pubblicamente la sua opinione su quello che viene discusso nel Consiglio. Quindi non solo c'è il divieto di partecipazione politica a chi supera i 70 anni o comunque è impedito a combattere, ma anche il divieto di parole. Allora, secondo me, questa disposizione va in senso anti-feudale, proprio contro, diciamo, quella mentalità dei signori, e anche anti-ecclesiastica, e mi interrogo giustamente a notare come l'invecchiamento porta a un maggiore grado di prestigio in campo ecclesiastico. Quindi, e va in senso, quindi, democratico e altro. È un punto, io insisto, che nessuno finora ha toccato e mi pare che possa, meriti di essere approfondito e comunque di controllare. Se quello che succede a Bologna, dove questa rubrica è molto precisa, succede anche in altre città. Direi allora che la diversificazione per età dello Stato ha importanza. E allora direi l'ultima cosa. Una cosa che genericamente si dice, la comunis opinio, è che nel Medioevo la gente non avesse un'idea di quanti anni avevano, di che età aveva, perché non esisteva un'anagrafe, eccetera. Tutto questo in contraddizione col fatto che non c'era rubrica di statuto in cui non si prevede che certe cariche, certe funzioni possono essere assunte soltanto allo scoccare di certe età precise. Quindi non è vero che gli uomini del Medioevo non sapevano quando erano nati, perché se non avessero almeno nella società di tipo comunale, forse in altri tipi di società di tipo rurale o anche d'altro, in quella comunale credo sicuramente che lo abbia, e noi poi a riprova lo abbiamo dal fatto a Bologna di questi elenchi completi, fantastici, di tutti gli atti alle armi che entrano negli elenchi quando hanno 18 anni e ne escono quando hanno 70 anni. Grazie Pini, non so se Gabriella voleva forse subito... Una precisazione preliminare, diciamo, per non cadere in equivoco, perché si parlava di applicazione di categorie e quindi ma queste categorie non possono e non vogliono essere inventate, la definizione noi la deduciamo dalla definizione stessa che ci proviene dalle fonti, quindi questa in parte è una risposta anche a quello che diceva Nobili, è quella che lui ha chiamato l'immagine, è quella che Capitani, con altre parole che magari ci sono diventate più familiari perché l'abbiamo sentito usare da lui per diversi anni, ha chiamato la coscienza del sistema. Ora, quando io mettevo in guardia davo questo avvertimento, ho detto chiariamoci se si pone a un momento preciso dell'evoluzione dinamica e se al momento politico, chiaramente intendevo il momento della coscienza del sistema, evidentemente, no? Ecco, quindi direi, teniamo a mente questo, insomma, che noi le deduciamo dalle fonti e vogliamo, se vogliamo, è per razionalizzare il processo, se vogliamo usare una categoria concettuale, è per razionalizzare questo processo, ma non per inserirvi sopra un tipo di schema precostituito, ma per razionalizzarlo semplicemente, quindi intendiamoci molto chiaramente sul punto, perché altrimenti rischiamo veramente di alimentare un equivoco anche nella discussione e forse di non intenderci più fino alla fine. Ecco, non so se sono riuscita a spiegare che cosa intendo di questo. Ora evidentemente L'altro discorso ancora, che c'è dietro anche al discorso di Duby probabilmente, è anche quello dell'applicazione di un certo tipo di modello, di un certo tipo di modello letterario. Ora che io dicendo, i valori nobili non sono mai esistiti, no, diciamo che il concetto di nobile ha cambiato di significato almeno 100 volte, insomma, non che i nobili non sono mai esistiti, perché quando io da un certo punto in poi una certa classe politica, e lo dico nel senso preciso del termine, capisco che vedo che incomincia ad essere chiamata nobiles, a quel punto si parla di un ceto e non più di una classe politica. Ecco, quando vengono chiamati nobili collettivamente nobiles, ma mica da me, ma dalle fonti. Allora perché prima non sono mai stati chiamati due nobiles in un secolo e mezzo di vita nel quale erano pur sempre loro stessi e non degli altri? E quindi dovrò pur dar ragione anche di questo, se non voglio mantenere la mia analisi storica non a livello descrittivo, ma la voglio mantenere a livello interpretativo. Io devo, di tutte quante le modificazioni, io devo dare ragione. Ecco, quindi intendiamoci bene su questo punto, e forse poi dopo una linea di comprensione la troviamo nel volere poi applicare le categorie politologiche, insomma. Perché evidentemente queste le si applicano a livello di coscienza del sistema, insomma, ecco, a mio giudizio, intendiamoci. Non so se può essere utile un chiarimento di questo tipo. Io non mi soffermo di più, non sto dando. No, no, è capire qual è la coscienza che hanno loro, evidentemente, di se stessi, vero? Che hanno loro. No, io poi dopo le posso razionalizzare per capire il processo. Della modificazione, le posso razionalizzare, ma farò bene la distinzione e spiegherò bene il momento nel quale io questa indicazione la trovo applicata, e direi a livello di coscienza del sistema. Non do le risposte che mi verrebbe spontaneo dare, ho voluto semplicemente fare un chiarimento per la discussione, le risposte non ci sono ancora nella mia risposta. Magari ridiscutiamo partendo anche da questo. Sì, su questo punto qui ci sono, immagino, ancora delle, non so, prima di dire. Voleva parlare sempre. Chitolini anche perché sto parlando. No. Cosa hai detto? Ma io mi scuso se dirò alcune cose a queste bocconi, ma spero di farmi perdonare per la brevità con cui cercherò di dirmi. Le cose che sono dette oggi, secondo me, fino a questo momento, forse richiedono già alcuni, cioè richiedono di non partire direttamente da Mr. Howard, ma tenere già conto di quello che ho detto finora, in questo senso. Ad esempio, una domanda che Nobili pone, mi ha incuriosito, cioè la sua analisi, la sua lettura di Mr. Howard mi passa singolarmente lucida, nonostante le sue dichiarazioni di modestia, mi pare che sia una comprensione molto evidente. Però è una domanda finale, invece mi ha lasciato perplesso, dove Nobili dice, ma data questa lettura di Mr. Howard, posso applicare questi concetti? Chiedermi quali. In realtà il problema vero è che, se condotta fino alle estreme conseguenze, questa lettura di Mr. Howard esprime una sorta di travaglio, no? Di chi applica vari tentativi, no? di cose che non si possono fare. Uno arriva alla sua ultima pagina e scopre tutte le cose che non può affrontare, tutti i termini che non può usare, e tutto sommato. E allora, tutto sommato, il problema non mi sembra che possa porre sulla base di Mr. Howard la domanda se si possono applicare questi concetti, perché non vi sono proposte di concetti applicabili in Mr. Howard. Se piuttosto, e quindi questo lo dico anche per esprimere una certa perplessità, non sul livello del discorso, che mi pare positivo e doveroso, ma per esprimere una certa perplessità sull'utilità di affrontare il discorso con un approccio di tipo proibizionista, che è appunto quello che mi spaventa un po'. Invece l'elemento positivo, secondo me, e sul quale invece, a differenza che per i concetti, una domanda si può porre, è quello degli ingredienti. E qui mi ricollego anche a una cosa che ha detto Pini, cioè, ad esempio, questa questione dell'età è un fatto interessante, perché l'esempio che Pini ha fatto in relazione a Bologna amplia già il ventaglio di applicazione del concetto di questa cosa di Mr. Howard stesso, perché il fatto che si proibisca a un'ultra settantenne che esprime la sua opinione implica non già dal punto di vista soggettivo, no? Della valutazione soggettiva di un anziano, no? Quindi Canusa, che noi lo consideriamo in secondo ordine perché non può più parlare, ma perché ci mettiamo nella prospettiva delle potenzialità di influenza che a questo settantenne si attribuivano, quindi bisogna tenere evidentemente conto anche di questo fattore, che poi abbia una sua rispondente istituzionale in negativo, cioè della sua impossibilità sul piano normativo a esprimersi, questo diventa un altro problema. Ecco perché parlo di ingredienti, perché è indispensabile quando ci si pone, secondo me, di fronte ad una situazione o specifica o generale e si prova a dare una serie di definizioni che attengono il campo della classificazione sociale, credo che sia quasi inevitabile dichiarare o sulla base di quale delle prospettive si prova a procedere all'analisi, oppure dire che si proverà a procedere all'analisi sotto più prospettive e poi cercare alla fine di compiere la composizione. Ad esempio, io credo che il riferimento che c'è in Mitterauer su quelle che lui chiama, con termini un po' più faticosi, ho visto anche nel tedesco, però che mi pare in italiano abbiano un corrispondente che va benissimo, sono le nozioni soggettive di eminenza sociale. Ecco, credo ad esempio che questa insistenza sul fatto che queste nozioni soggettive di eminenza sociale sono una cosa da studiare molto di più, da tenere molto più in considerazione come componente definitoria di questa classificazione. Questo sia un suggerimento importante ed è però al tempo stesso anche un esempio di come probabilmente si dovrebbe, io questo lo auspico, fare alcune ricerche che siano proprio su queste nozioni soggettive di eminenza sociale, e lì credo che tu sia d'accordo con me, visto che hai tirato fuori il libro di Bibi. Cioè, io credo che ci sia forse una cosa da chiarire, che è quello dei tipi di ricerca. E qui mi ricollego alla fine a una cosa che hai detto tu. Cioè, ad esempio, nel momento in cui io auspico che esistano delle ricerche monoingrediente, no? Sul piano della definizione sociale, come ad esempio una ricerca sulle nozioni soggettive di eminenza sociale, come forse può essere per i possessori la qualità e la quantità della loro ricchezza, è perché evidentemente ho delle perplessità che la ricerca sul campo, nel momento in cui inizia, riesca già a contenere tutti quelli che io per ragioni di comodo, con molta rispetto, sto chiamando ingredienti. Questo perché? Perché tutto sommato io non credo che il problema sia quello di accusare o comunque di ricordare amichevolmente ai sociologi che la storia ha queste caratteristiche di dinamismo e che tutto sommato non possiamo dare delle definizioni che siano valide sul lungo periodo, eccetera. Perché non possiamo dimenticare che una delle accuse sistematicamente più ricorrenti, che direi soprattutto gli epistemologi professionisti fanno agli storici, è quella di compiere un'operazione che invece a me pare nobilissima, che è quella di rinunciare alla ricerca delle regolarità. Cioè, voi sapete che soprattutto la ricerca delle regolarità. Voi sapete che soprattutto nel campo dell'insegnamento della storia, una critica che si fa all'insegnamento della storia è di essere inutile, perché troppo spesso insiste sullo specifico e rinuncia a una certa ricerca della regolarità, che in fondo era proprio di tutte le filosofie della storia a cui faceva riferimento Pinzini. Ora, questa rinuncia alla ricerca della regolarità è stata negli ultimi anni notevolmente e positivamente nobilitata dai rapporti con scienze come l'antropologia e l'etnostoria. Però tutto sommato credo che ancora paghiamo lo scotto di questo, cioè credo che dobbiamo difendere con maggior consapevolezza concettuale e epistemologica questa rinuncia alla ricerca della regolarità, e quindi sapere che non è che loro ignorino che ci sono questi aspetti dinamici nella storia, e che in linea di massima ritengono che dovrebbe essere il nostro compito cercare gli elementi di regolarità in questo dinamismo. Sui tipi di ricerca, ultima cosa, ecco, io ho qualche perplessità che si possa parlare di ricerca storica senza costruire una tipologia, perché io sono d'accordo con quello che diceva Gabriella Rossetti sul fatto che anche la più specifica delle ricerche ha un suo livello interpretativo e deve averlo, non ha solo un livello descrittivo. Però sono anche convinto che non si può in fondo esimersi, mi riferisco di nuovo all'esempio di prima, all'esempio di quella proposta di ricerca che potrebbe essere fatta su un ambito territoriale cronologico abbastanza esteso, sui vari tipi di nozioni soggettive di evidenza sociale, ecco, ricerche di questo tipo sono indubbiamente molto diverse da una ricerca sulla, su un ceto dirigente di una certa città, politicamente già consapevole o no, eccetera, no? È ovvio che il libro di GB è una cosa molto diversa da quello che è stato appena presentato su Pisa, proprio come impostazione, come matrici che l'hanno guidata, cioè come scopi, insomma, si prefiggono scopi diversi. Dati questi scopi diversi, ecco che reagisco al proibizionismo terminologico. Reagisco perché? Perché io ritengo che tutto sommato un libro come quello di GB, che utilizza tante altre ricerche, farebbero un'operazione ben scorretta se utilizzassi il livello interpretativo e non il livello descrittivo di quelle ricerche. Le ricerche specifiche hanno il loro livello interpretativo, certo, ma se hanno delle tabelle con i gruppi di possessori divisi per quantità di terra posseduta o per qualità di cose possedute, è quelle tabelle che bisogna usare, non le confusioni. Cioè, un'operazione che sia comunque di sintesi interpretativa più ampia e non una ricerca, chiamiamola scavo, specifica, deve evidentemente, secondo me, utilizzare i dati comunicati, non le conclusioni, sulla base della presunzione di una terminologia usata in modo pregnante. Perché a questo, tra l'altro, siamo realisti, non ci si arriverà mai. Quindi, forse questa proposta sotterranea che c'è nel lavoro di Mr. Aura, che dice che tutti perdiamo troppo tempo non usando termini precisi, ecco, mi pare avere un obiettivo troppo alto e tra l'altro che mi lascia perplesso sul piano dell'aderenza della nostra terminologia alle fonti. Uno fa la sua ricerca, usa una terminologia più possibile aderente alle fonti, sa che se la sua ricerca sarà utilizzata per un'operazione di sintesi, si utilizzerà non la definizione che tu hai dato di uno strato, perché qui ritengo che possa andare bene così per capirsi usare questo termine, ma non la definizione che tu hai dato, ma ciò che emerge di oggettivamente descritto di questo stesso stato, anche di un stato ricomposto in modo diverso da chi ne compie la rilettura. È chiaro che chi opera una sintesi non lavora su un insieme di dati, ma su un insieme di studi specifici. Un esempio lampante mi sembrano essere tutte le enormi perplessità che mi sarà sull'utilizzo del termine ceto, per il fatto che c'è un'evidente specificità della storiografia tedesca sul problema del sistema sessuale, il problema di esistenza, che evidentemente, ad esempio, mette una gabbia a noi che possiamo usare sempre con molta più spregiudicatezza perché non abbiamo un medioevo simile a quello tedesco sotto questo punto di vista. Io vorrei fare un altro chiarimento, perché mi sembra che ci sia un fraintendimento di quello che io intendo per dinamismo. Io intendo dinamismo che questi concetti non siano tra di loro paragonabili ad un livello orizzontale, ma che possano indicare un passaggio, tanto per intenderci molto chiaramente, dal gruppo, diciamo così, alla classe politica al ceto, cioè che non ci si renda conto che possono funzionare a livelli diversi di accertamento storico. Intendevo in questo senso il dinamismo, non il dinamismo della modificazione. Quindi mi pare che ci sia una prospettiva invece che è mancata totalmente nel Mitterrand, questa, cioè che in realtà sono tutti concetti legittimi ma che sono applicabili verticalmente. Ecco, io forse non mi sono spiegata all'inizio, volevo, siccome non volevo dare già le risposte, mi sono ritrovata poi a essere ovviamente molto, ecco, non credo che sia una risposta a tutto quello che tu hai detto e non voglio neppure in questo tempo, però questo chiarimento mi sembra utile. Non l'ha usati mai verticalmente, mi pare, ecco, non so se voi avete inteso diversamente. Ecco, e io su questo punto mi permetto di sentire, insomma, ovviamente, visto che siamo arrivati in qualche modo. Qualche intervento ancora di carattere generale, Camarosano. Di questo lavoro mi interessa, io parlo molto lateralmente, razionalmente, perché ho interpretato la scelta del testo e il testo del giudizio, nel senso che questo lavoro fosse un pretesto per un chiarimento molto pratico, molto libero, molto soggettivo, se vogliamo, delle categorie che usiamo nella nostra empirica della storia. Io comunque parlo del discorso, cioè io vorrei un momento brevemente, no, chiarire quali sono le categorie che abbiamo adesso, per essere un certo punto, in modo molto soggettivo e anche molto perentorio, soggettività e voluta, perché appunto intendo che di fatto è molto pratico. Invece non è voluta, io ho semplicemente fatto che il tempo breve di fatto dei sondaggi di storia della società italiana del centro del nord, grosso modo tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo, con fusioni molto sporadiche, generalmente di romani, di centuali, di donne, che però fare parte di in queste ricerche io cerco, nel mio sforzo, di evidenziare delle formazioni sociali definite nel tempo, caratterizzate da due elementi. Da un lato, da una determinata struttura di classe, dove per classe intendo un schema di soggetti storici omogeneo dal punto di vista di quel rapporto fondamentale, di quell'aspetto fondamentale del rapporto tra uomo e natura che era l'interno. Qualunque forma di assume, sia un'attività diretta di produzione, di nuovo dal produttore, sia di controllo della produzione, sia di trasformazione primaria, sia di trasformazione di manufatti, sia di scambio, sia di scambio fluido di merce di moneta, sia di scambio evidentemente finanziario, sia di tutte queste cose insieme, sia di puro parassitismo, sia di pura posizione diretta, e adesso tutto quello che abbiamo. Andiamo. In senso lato, fa questo di attività economica. Formazioni sociali caratterizzate dall'altro canto, e in maniera strettamente dialettica e complementare a questa, da una certa dialettica dei rapporti del potere e della posizione. Momenti che secondo me sono in connessione molto stretta, talché questa dialettica può dar luogo a delle modificazioni nella natura della classe stessa, e in questa dialettica si creano, come tutti sappiamo, e come cerco di volta in volta di depistare, anche delle disaggregazioni, delle aggregazioni di classe, disaggregazioni e aggregazioni di fronte alle quali tendo ad usare normalmente il termine cerco, in un senso, devo dire, lato, ma rivendicando o un segmento di una classe sociale che in una certa fase della dialettica politica viene identificata in un certo modo, per fare un esempio conosciuto, i magnati in una certa fase della storia politica dei comuni italiani, o per indicare invece delle aggregazioni di classi diverse che a un certo momento hanno blocco, se vogliamo usare questo termine, ai fini, e che nel far blocco però possono subire anche delle profonde modificazioni dal punto di vista economico-strutturale al loro interno. Ad esempio, perché convergono insieme in una certa organizzazione della finanza pubblica, e questo sposta drasticamente la loro base di ricchezza, di formazione, di intervento della vita economica, può spostare a volte in maniera cristallizzata e duramente. Naturalmente posso usare anche il termine certo, lo uso nel senso specifico e tecnico con cui rendiamo il termine tedesco Reichsbank, oppure del termine in cui nell'articolo 5 si parlava di Stato in una serie internazionale. Certamente c'è anche questo termine, e quando questo termine specificamente fa il luogo, lo usiamo. Nella mia esperienza entra in gioco, ad esempio, nella formazione del patriarcato pugliese a partire essenzialmente dallo scorso XVI secolo, non vedo qui Schmidinger, ma insomma è stato questo, e lì parliamo di cerchio in questo senso tecnico e specifico, che ha tutta una serie di implicazioni che naturalmente non si possono generalizzare e impediscono la cultura del concetto. In questo senso chiaramente ti darà una ragione nel momento in cui, ad esempio, una formazione di questo tipo è essenziale nella costruzione di un cerchio. La immediata dipendenza dal principe, per cui il tizio che invece è vassallo di un altro non entra nella composizione perché era vassallo, ma però la sua base economico-sociale, la sua composizione familiare, cultura è la stessa, allora però diciamo che il termine certo, ma è una spiegazione molto specifica, e sotto questo profilo direi che forse c'è un eccesso di dilatazione interpretativa che per Auer quando lui attacca la nozione di Stato, ecco, come consonante. Infatti. Cioè, lui ha davanti, ha preso Karl Martin Popper, il quale, come fanno tanti sociologi, si inventa, per così dire, un medioevo al quale si possono applicare delle categorie, e ci dice nei manuali, il manualetto di te, nel quale lui molte parte sono fatti la sua mobilità, no? Che il medioevo è caratterizzato da questo c'è che sta, e questa caratterizzazione è chiaramente una, è più che una, perché è un episodio, secondo me, significativo di un generale fenomeno di repressione che affligge la storia medievale. un fenomeno analogo, per citarne almeno tre di fondamentale importanza, a quello che ad esempio ha visto nel settore della produzione di merci in medioevo come caratterizzato dall'artigianato corporativo, che si è usato tutto per prendere lo Stato, e non ha colto che questo artigianato corporativo, a meno di inseguire le varie storiografie delle origini, delle continuità, eccetera, è un fatto specifico di un momento sociale, si afferma in un momento preciso e determinato. Idem per quanto riguarda la riconduzione al medioevo di tutta l'impalcatura delle misure restrittive, daziali, eccetera, che poi confluiscono, no, nel mercantilismo moderno. Certo, gli studiosi, gli illuministi, i rivoluzionari del Settecento, i riformatori dell'Ottocento, gli economisti illuministi prima, la formazione delle idee liberiste poi, aveva questi obiettivi, che ha abbattuto in varie forme, ideologicamente e non ideologicamente, e nell'abbatterli ha ricondotto queste forme a un arco complessivo della storia medievale. È normale che i facessi hanno anche scritto delle grandi pagine di storia, le pagine di Smith su queste cose, le pagine di Marx su queste cose, sono delle luci che splendono ancora, però noi quando ricostruiamo la storia non dobbiamo operare a nostra volta questa riflessione, va bene? E sono cose che si operano ricorrentemente, ma no? Quando in una delle grandi opere di storiografia contemporanea, lo studio di Hatcher sul mercantilismo, certo, lui riconduce al medioevo, alle formazioni medievali, questa impalcatura di misure, ma anche lui, che è un grande, lo fa in maniera controllata a questo punto, perché anche se poi concretamente uno si rende conto che empiricamente queste cose sono condotte alla fase successiva del medioevo, ma nella sua impostazione è tutto il medioevo, a cui ci troviamo insieme. Il pedaggio imposto, va bene, in Baviera nell'undicesimo secolo, e un altro tipo di misure che sono funzionali a un'altra realtà, ad esempio la città, la realtà di una città libera o di una città fatta di parte, eccetera. Una di queste raccomandazioni, secondo me, è l'estensione del concetto di cielo, di terra, di distanza, e quindi, secondo me, è un altro punto. Torno al discorso principale, taglierò per un momento, perché non mi posso dire. Che cosa nella considerazione di questa dialettica, no? Cerco un momento di vedere la struttura sociale complessivamente, in questo senso, empiricamente, certo, studiamo una famiglia aristocratica, un gruppo di famiglie aristocratiche, o isoliamo un settore interessante, gli artigiani, ad esempio, va bene, ma questo di cui arriva dal fatto che la carne è debole, la vita è breve, quindi isoliamo queste cose, però soggettivamente quello che mi interessa è la collocazione in una struttura di classe complessiva e una dinamica politica complessiva. L'artigianato perché è così affascinante tema di ricerca, se non per questa posizione straordinaria che assume certe parti della storia, il 500 ad esempio, il 200, questa classe, scusate, da un lato è diciamo, antagonista rispetto alle relazioni mercantili e quindi spinto a solidarietà cose classi, categorie sociali, dall'altro invece sostanzialmente in terra, queste scelte quindi sempre pronta al dunque, a cedere il sé. Queste cose ci portano nel momento in cui si può prendere il sociale. Detto questo, dovrebbe anche essere chiaro che mi interessa fino a un certo punto problema della stratificazione sociale, in quanto questa ascensione ha gli statico, se vogliamo. Statico anche quando è corretta dall'idea di mobilità sociale, se per mobilità si intende l'ascesa e la discesa intergenerazionale o meno all'interno della stratificazione sociale. Quello che mi interessa è cogliere una struttura di classe, dinamica, ad esempio il mercante. Quello che mi interessa capire non è se il mercante in quel momento in che scalino di una scala, se c'è la scala collocata. Mi interessa capire se la comunità economica egli è un semplice mediatore di ricchezze prodotte all'infuori del suo ambito, del politico economico, o se invece ha un radicamento nell'ambito produttivo stesso, e che tipo di radicamento è questo, se è diretto, se è mediato attraverso le capitanziarie. Mi interessa capire se questo mercante, questa classe mercantile definita in questo momento è intrinsecamente legata a un aspetto della finanza pubblica, non lo concepisco, il mercante per il 30% senza il debito pubblico, importanti di cui ha parlato Pirelli, famose ricostruzioni, soprattutto anche di questo piano, è solo per quei classi di idee. E mi interessa la struttura in ciascuno dei costruzioni di impiego ordinato. Il piccolo produttore di merci, il piccolo produttore agricolo. Mi interessa capire se la formazione di questa piccola produzione agricola, di questa proprietà contadina libera in parte autonoma, nasce negli spazi dell'organizzazione signorile lascia ad essa. Nel senso che questa organizzazione signorile non assorbe tutti i margini di plus lavoro che vengono creati in questo momento. Oppure mi interessa vedere se al contrario o in modo differente nasce per investimento in una popolazione che avviene, vediamo, in città attraverso forme artigianali, eccetera, o se ci sono i due elementi che confluiscono insieme, come qualche essere. Poi, dice, queste cose che ho cercato di esprimere nel racconto personale hanno una serie di implicazioni. Io volevo dire per due, però non ho solo una. Una è che io personalmente non sono convinto dell'opportunità di fare su spaccati cronologici plurisecolari attraverso formazioni sociali diverse la storia della classe. Io devo dire, non mi partirei mai in una storia della nobiltà, in una storia della borghesia, come parliamo, neanche in una storia dell'artigianato, neanche in una storia di quello che viene contro, perché mi pare che in formazioni sociali diverse formazioni di classe praticamente diverse. Ad esempio, per venire a qualcosa forse più vicino agli interessi dei colleghi che si credono, non mi sentirei di collocare su una stessa linea di storia l'aristocrazia mondiale territoriale formata, diciamo, fine decimo, primo XII secolo, per intenderci, cioè un tipo di aristocrazia che fonda l'esercizio di potere in maniera sostanzialmente immediata e diretta attraverso la detenzione di determinate entità familiari, ma senza una mediazione che non sia quella che naturalmente di locali, rapporti sovrani, no? Ma in maniera molto diretta, per cui chi possiede quei castelli, chi possiede quei territori, ipso facto possiede di districus, ipso facto possiede il potere di costringere le persone a venire al giudizio, ipso facto esercita tutta una serie di prerogative di natura signorile. Non riesco a vedere questo aristocratico sulla stessa linea di uno aristocratico inserito nella città, che sì, magari continua ad avere, perché ci dice la patrimonialità, un pezzetto di albergaria qua, una decima da un'altra parte, riscuota un peraggio qui, ma sostanzialmente ricava, era ricava la sua potenza dall'inserimento di un gruppo, diciamo che sarebbe laschissimo, un gruppo dirigente politico nel quale si trova a fianco ad altri, e comunque attraverso la mediazione di un organismo politico, qual è la città, che può non essere uno Stato, può essere avere tutta una serie di rapporti che non lo identifichiamo come Stato, ma insomma esercita una forma di accordo di controllo nei settori decisivi del potere, il settore finanziario, il settore amministrativo, il settore giudiziario, nel complesso del territorio stesso. E come non posso ovviamente vedere sulla stessa linea il patrizio che si forma ad esempio nel 400, nel 500 e corrisponde a sua volta a un ulteriore cosiddetto classe. Per sottolineare con forza questo, dico, qua è una sottolineatura in realtà ovvia a questo punto, che per me questa continuità non c'è neanche se abbiamo la continuità biologica della famiglia. Cioè, le abbiamo, sono delle famiglie che noi rintracciamo dalle Caroline già fino al 600, al 700, mi voglio rovinare, ai giorni nostri, ma non mi interessa fare la storia di questa famiglia. Il patrizio di una città italiana del 400 è molto più simile per me al patrizio che vive a fianco a lui in quella città, che ai suoi antenati Caroline, scusa se non viene tutte le cose, ma è così, come mi rifiuto di isolare come elementi di continuità, e questo lo sottolineo perché viviamo con molti programmi, ma quindi continuisti, ma io mi rifiuto di sottolineare come elementi di continuità e di datare elementi di continuità sostanziale dei singoli frammenti di questo o quell'aspetto dell'organizzazione sociale. Se noi leggiamo, no, la splendida descrizione delle campagne francesi della vicina della grande rivoluzione che ci ha lasciato nelle terre, il diritto certo, ma l'ho capito, non diceva come. Impeutava la decima. È chiaro, se uno estrapola i singoli elementi, i teorici di dispersione della continuità hanno sempre ragione, questi elementi ci sono sempre. Togliamo la monarchia assoluta, togliamo l'assetto finanziario, togliamo che c'era il nascente capitalismo, va bene, togliamo tutte queste cose e poi certo la modernità c'è, grazie, lo abbiamo sempre, ma diciamo, sono tipi di operazioni, di assumere alcune presentazioni di massima, categorie di massima, contrapposizioni di massima, che ripeto, a mio giudizio, risalgono alle rappresentazioni di quel grande momento che è stato l'illuminismo, la rivoluzione francese, ma bene, la politica classica, che sono le contrapposizioni, l'unità, l'unità, l'unità borghesia, economia corporativa, economia libera, e quindi la contrapposizione dove la fonte farà la sottotitolata, la contrapposizione feudalesima borghesia, che diciamo è chiaramente lo stesso concetto marziano di modo di evoluzione feudale, che a mio giudizio è un elemento che va abbandonato dell'intera sociologia, abbandonato naturalmente comprendendo e cogliendo tutti gli elementi che l'hanno formato e assumendo e portando anche i grandi elementi positivi che c'erano in questa contrapposizione, la polemica di liberare di Marx, per esempio, che è giusta. E può essere in grandissima parte assunta ancora, come è la famosa frase facile essere liberale, eccetera, nel duello, è un'intuizione, è una conoscenza, diciamo così, di prima grandezza, la facciamo nostra, però questo concetto di modo di usare il concetto di localismo come presentazione generale, eccetera, e abbiamo tutti e due in mente la definizione che ha voluto imporre, per esempio, Tubère, meraviglia, perché è uno di quelli che invece hanno questa sensibilità, diciamo, al fatto anche istituzionale stesso, meraviglia che l'abbia voluta anche proporre, insomma, no? Ci riferiamo a... Ed è uno anche dei grossi fraintendimenti che c'è dentro Mitterauer, evidentemente. E dopo, al di là di quello, rimane però la possibilità di razionalizzazione quando tu lo guardi nel suo contesto, evidentemente. Ogni contesto. No, Paolo, continua. No, scusami se mi sono inserito. Sono io ho bisogno di una pausa organizzativa per... e poi di Marco. Io volevo chiamare soprattutto il caso da te, perché ti hai chiamato a questo discorso sulla, così vengo molto tematicamente, rapporti tra storia e sociologia, insomma, anche hai detto all'inizio del tuo discorsino e primario il rapporto, oggi il discorso storia sociologia. Ecco, e mi pare che da tutti gli interventi che sono saltati fuori, molto diversi in questo, concordanti con motivazioni diverse, è risultato un certo rifiuto di riconoscere a questo problema una priorità. Io non sono personalmente d'accordo con tutto quello che si è detto e appunto per così dico alcune cose molto confusamente, temo perché secondo me un margine di discorso e di intersezione c'è che va fatto e richiamato magari a questo punto. Per esempio, io se ho capito bene, non sono d'accordo con quello che ha detto Cini, in questa rivendicazione, adesso uso delle parole per intendersi, no? Cioè magari mi rendo conto che questo provocherà tutta una serie di precisazioni, in realtà. Quando nel discorso di Pini mi sembra di aver capito una certa rivendicazione alla imprecisione dei concetti, perché tutto sommato la nobiltà e l'obiltà, i ceti dirigenti sono ceti dirigenti, eccetera. Ecco, io su questo non sono d'accordo, perché secondo me occorre viceversa il massimo della specificità nell'affrontare questi temi. E mi rendo conto, è un'esigenza che la sociologia ha spesso formulato in termini di carattere, questo è un altro discorso, magari troppo generale o non troppo generale in questo senso, non immediatamente applicabili alla ricerca storica. E non sono d'accordo, qui non so se ho capito bene, neanche lo dicevo prima, con quello che diceva Sergi, anche lui in questo senso, cioè di rivendicare una certa diritto alla non pregnanza dei concetti, insomma. Perché secondo me occorre, è essenziale per capire. Ecco, dov'è che allora si ferma l'accordo tra, diciamo così, storia e sociologia, che hanno, secondo me, devono avere in comune l'aspirazione alla creazione di un sistema di concetti il più possibile preciso e pregnante. In questo, che la solita storia nascono da esigenze conoscitive diverse, cioè ogni sistema di concetti, come ricordava Nobili molto opportunamente prima, nasce da un certo orientamento preliminare di ricerca, e siamo al solito punto che storia e sociologia studiano delle cose diverse. Quali siano questi punti di contatto, io veramente faccio fatica a vederli. Credo che si possa procedere più per analogia che geneticamente, insomma, nel trovare concordanza tra concetti storiografici e concetti sociologici. Secondo me è vero un'altra cosa, cioè è vero quello che ha detto Schiera, che il problema dei rapporti storia e sociologia è oggi importante da un altro punto di vista, che cioè c'è la tendenza a risolvere la storia nelle scienze sociali, insomma, e a togliere quelle specificità così di evoluzione, di temporalità, ed è una tendenza che io vedo molto diffusa, non so se è quello che diceva Camarugiano prima quando imprecava contro i continui, ma io intendo qualcosa del genere, cioè libri per dire, per andare sul grosso come la Guardia, o questa la Guardia, o questa ripresa di quotidianità a cui si aspira, no? Ritrovare sempre tutto quello che è uguale, usare la storia più come scienza ausiliaria delle scienze sociali e della sociologia, che non arricchire la storia di categorie e concetti sociologici. Da questo punto di vista il problema storia e sociologia è attualissimo. Dall'altro punto di vista, fino a che punto le categorie di conoscenza sociologica possano servire alla conoscenza storica, diceva, io ho la sensazione che si vengano ripetendo delle cose che sono, non qui in particolare, sono state già dette, forse lasciate al punto in cui erano 70-80 anni fa, cioè quando in questo punto si è posto questo problema, nel senso che sono due scienze diverse. Bisogna prima fare una scelta, cioè appunto scegliere un campo, una forma di conoscenza, un sistema a cui orientarsi. E poi certamente io quando nella mia specifica ricerca ho trovato che era stato elaborato un certo concetto sociologico, che ho visto che mi serviva per capire dei contenuti specifici, sono stato molto contento di aver trovato un signore che aveva fatto quel lavoro di elaborazione concettuale, mi aveva dato uno strumento conoscitivo che poteva servire anche a me. Però lui andava per la sua strada e io andavo per la mia, insomma. Sono questi incontri abbastanza marginali e per analogia e per evoluzione. Quindi questi due punti. L'altro problema che si collega in fondo a tutto questo, sempre restando nell'ambito di questi massimi problemi, è questo. Secondo me oggi c'è questa tendenza, cioè io vedo questa tendenza, ne ho già parlato, mi spiace per chi ha già sentito queste cose, insomma, una tendenza che tende ad eliminare più in generale o a ridurre l'importanza appunto di categorie generali nell'interpretazione dei fatti particolari. Insomma, adesso mi riferisco a un impostore, in cui c'è una specie di gusto di dire noi cerchiamo il concreto, il particolare, il quotidiano, eccetera, vogliamo che questo sia bene e ben messo in luce, e tutto il resto non ci interessa, che è una reazione salutare, provvidenziale verso quegli schematismi così grossolani in cui molto spesso si cade partendo dalle varie filosofie della storia di cui parlava Pin, o da pure queste cose che sono diversissime ma hanno la stessa aspirazione alla generalità, che sono appunto queste tipologie o sistemazioni di concetti. E quindi positivo in questo. Negativo mi pare quando si cade appunto in un'orgia di piccoli particolari che non si capisce fino a che punto siano coordinati in una conoscenza, così, in un sistema di conoscenza di carattere generale, che secondo me è prioritario, cioè bisogna bene o male fare i conti con queste categorie, insomma. E la non giustificazione, perché io ho questa impressione, che molte volte si dà a certi manifesti programmatici in favore della microstoria, mi lascia molto perplesso, perché non so se veramente questa giustificazione alle spalle non c'è, oppure non riesco a capire chiaramente quale possa essere, insomma. Io non so se Pini quando diceva che, o anche Sergio, il fatto della regolarità o della irripetibilità, insomma. Se regolarità significa che le categorie conoscitive della storia devono essere le stesse di altre scienze in cui questo concetto di regolarità e ripetibilità è prioritario, allora sono d'accordo che facciamo. Però se intendiamo che dobbiamo rinunciare sotto l'etichetta di regolarità a appunto un criterio interpretativo, allora qui io mi chiedo che senso abbia solo questo lavoro. Lo stesso quando Pini diceva questa invocazione, non dico alla irrazionalità, ma comunque a certe oscurità, cose che capitano una volta sole, sono quelle, noi basta che capiamo quelle. Ecco, io trovo che questo, se ho capito bene, è un po' pericoloso, perché tutto sommato forse ha senso credere che la storia sia una forma di conoscenza, sono tutte queste. Sì, io sono stato preso in ballo da Chitolini, che ringrazio, ma che però mi mette veramente in una situazione di grande disagio, perché sinceramente, come ho detto anche in apertura, veramente queste iniziative che noi conduciamo, anche se dall'esterno possono apparire come ispirate a un qualche progetto o a una qualche, insomma, linea di tendenza unitaria, in realtà lo sono molto meno, insomma. Io vado a tentoni, così, veramente a naso, come si dice, e quindi soprattutto oggi che mi trovo così in un contesto così qualificato di persone che si occupano di cose specifiche di cui io non mi occupo, ho molta difficoltà a esprimere quello che sta alla base, insomma, di queste iniziative, no? E quindi per forza dirò delle cose forse estremamente banali, vi prego di scusarle, di accettarle semplicemente come così ospiti che devono sentire anche un po' il padrone di casa. Io penso che necessariamente, cioè dal mio punto di vista, bisogna partire dall'ultima propria affermazione che ha fatto Giorgio Chitolini, cioè il problema di che cosa, detta così è ridicolo, ma il problema di che cosa sia la storia, cioè la storia in fondo è una forma di conoscenza, mi pare. La storia non è una cosa che si chiude in sé, insomma, non è una cosa che si mangia da sola, non è una cosa che si giustifica dal suo interno e basta, quindi non è una cosa che finisce nel momento in cui si è individuato un fenomeno, un fatto, una fattispecie e la si è colta in tutta la sua evidenza e chiusa lì. Questo non serve a nessuno, non serve a niente, la storia è una forma di conoscenza. In questo senso, che rapporto c'è tra la storia, quindi essendo una forma di conoscenza riferita evidentemente ai fenomeni sociali, ai fatti sociali, alle relazioni degli uomini fra di loro e così via, entra dentro nel novero di quelle che noi consideriamo le scienze umane, le scienze dello spirito, se vogliamo usare questa terminologia ottocentesca, eccetera, eccetera, no? Perché in questo senso si stabilisce la necessità del rapporto con la sociologia. Secondo me il rapporto all'interno del grande quadro delle scienze umane o delle scienze dello spirito, il rapporto fra la storia come forma di conoscenza e la sociologia come forma di conoscenza è un rapporto privilegiato rispetto a quello che c'è per esempio tra ciascuna di queste due, storia e sociologia, con le altre scienze sociali, per esempio il diritto, l'economia o la psicologia o quello che volete voi. Perché mi pare di capire che entrambe, sia la storia che la sociologia, rispetto alle altre scienze sociali, si qualificano come dei grandi quadri di riferimento, dei grandi contenitori di criteri di interpretazione, di parametri di lettura, di metri di misura, che servono alle altre scienze sociali per definire in termini molto più normativo, molto più formalizzato, settori specifici e tecnicamente precisabili di comportamenti umani. Questo mi sembra che sia un fatto estremamente importante. Ed è importante, secondo me, anche se si vuol fare un po' di storia della sociologia o della storiografia, appunto come forme di conoscenza, rilevare una certa, vicenda alterna nel ruolo che storia e sociologia hanno rappresentato in questo senso che sto dicendo adesso. Perché mi pare di capire che, per esempio, nel corso dell'Ottocento, nel corso del secondo e del terzo quarto dell'Ottocento, la storia, la storiografia effettivamente ha svolto, rispetto alle scienze sociali in senso stretto, questa grande funzione di contorno. La stessa funzione di contorno che, invece, a partire dall'ultimo quarto dell'Ottocento e nel corso del Novecento, ha invece svolto la sociologia. Mi spiego meglio. Se noi pensiamo alla storia, all'economia storica, cioè alla scuola storica dell'economia, alla scuola storica del diritto, no? A questo tipo di cose qui, ci rendiamo conto che in quel contesto culturale era la storiografia, era la conoscenza storica che garantiva l'elaborazione teorico-tecnica in settori specifici di applicazione delle scienze umane. Allo stesso modo ci rendiamo conto però che questa competenza onnicomprensiva di giustificazione di fondo che la storia rappresentava rispetto alle scienze sociali, tecniche, in quel periodo lì, è stata invece surrogata successivamente esattamente dalla sociologia. La sociologia, secondo me, nasce nel momento in cui il processo di formalizzazione a cui vengono sottoposte le scienze sociali in senso stretto, il diritto, l'economia e la psicologia, costringe a inventare, a trovare un quadro di riferimento di tipo ideologico, cioè di tipo valorifico, insomma, basato sui valori, che dentro a quelle singole scienze non si può più dare. A mio avviso la sociologia svolge questo ruolo importantissimo dall'ultimo quarto dell'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale raccogliere un po' proprio i residui ideologici o di valore che sono espunti mediante il processo di formalizzazione dalle altre scienze sociali. Cioè svolge lo stesso ruolo che aveva svolto la storia nel corso dell'Ottocento. Non a caso, a mio avviso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, mediante il processo di ricarica ideologica che tutte le singole scienze sociali, stricto sensu, stanno attraversando, il diritto, l'economia, la psicologia e così via, la sociologia ha perduto grande parte della sua funzione e si è ridotta e si è andata riducendo essa stessa a scienza tecnica, a scienza applicativa, cioè a scienza speciale, a scienza sociale stretto senso. Quindi questa, se è vera, insomma, è molto approssimativa questa affermazione che faccio, ma se ha un minimo di legittimità questa affermazione, rafforza ulteriormente l'analogia che tra storia e sociologia come forma di conoscenza sussiste. No, non è vero perché il problema va avanti. C'è un secondo aspetto che secondo me si muove in questa stessa direzione. La sociologia moderna, intesa come l'ho intesa io, nasce chiaramente, non dirò su basi storiche, ma con riferimenti precisi, denunciati e, voglio dire, verificabili, insomma, dalla storia. Il riferimento a Max Weber è esemplare, ma non è unico. Ecco, è chiaro che Max Weber non è uno storico, non ha mai voluto essere uno storico, l'ha detto chiaramente che non gli interessava fare storia, ha elaborato una metodologia non di tipo storico e tutto quello che volete voi. Però è altrettanto chiaro, e lui stesso lo dice, e lo si vede dalle sue opere, e così via, che c'è come un filo rosso, c'è come una staffetta che passa di mano, insomma, attraverso Max Weber. E quindi anche questo, secondo me, rafforza la possibilità, la necessità, direi di più, di verificare in termini di forme di conoscenza che tipo di rapporto e di scambio che ci può essere tra conoscenza storica e conoscenza sociologica. Adesso cerco di venire, allora, a spiegare in maniera più esplicita, no? Che cosa sta dietro vagamente, confusamente a questi tentativi che io e altri, insomma, cerchiamo di fare con queste iniziative. Per me il punto cruciale è una strana concezione che ho io di quelle che i tedeschi chiamano la Verfassungsgeschichte, la storia costituzionale. Il punto cruciale è questo, perché a mio avviso il momento, non dico di unificazione, ma il momento di contatto maggiore in termini di forma di conoscenza tra storia e sociologia sta qui, cioè sta nella necessità che sia l'indagine storica sia l'indagine sociologica arrivino a definire dei nodi di aggregazione di quelle che sono, per situazioni date, le caratteristiche peculiari, significative e denotanti. In termini di che cosa? In termini di rapporti fra gli uomini. Fra gli uomini in quanto individui o fra gli uomini in quanto gruppi, organizzati in gruppi. Questo qui per me è il momento cruciale. Cioè, non è un problema di continuità quello che a me interessa. Così come, viceversa, non è neanche un problema di non continuità. Va benissimo che la storia si caratterizza per la specificità dei fatti che studia, così come va benissimo che invece la sociologia si caratterizza per la evidenziazione fotografica, diciamo così, in termini statici di determinate situazioni. Quel che mi interessa però è il fatto che entrambe hanno come referente fondamentale la definizione di nodi che siano esplicativi in termini del rapporto che gli uomini hanno tra di loro. Questo si traduce concretamente nel linguaggio, nella mentalità, nei referenti culturali che noi abbiamo, nello studio dei problemi del potere, per esempio. Che non significa però lo studio del problema del dominio, cioè della classe dominante. Significa lo studio delle relazioni che intercorrono fra coloro che dominano e coloro che sono dominati. Cioè il potere, come sostiene per esempio qualche sociologo, è un po' paradossale dirlo, ma secondo me è efficace come affermazione. Il potere alla fine ha un valore neutro, nel senso che è la somma algebrica di coloro che esercitano il dominio e di coloro che il dominio lo subiscono. Questo secondo me è l'oggetto specifico su cui sia la storia che la sociologia tutto sommato concordano. E non è invece questo il tema specifico, il punto specifico di applicazione delle altre scienze sociali in stretto senso. Ma allora, come si fa a arrivare, insomma, vicino a questi nodi? Cioè, in che modo è possibile coniugare, utilizzare sia la ricerca storica che la sociologia, che hanno loro metodologie, che hanno loro ambiti oggettuali diversi e così via? Ecco, come possono essere in qualche modo trovare unificazione, insomma, in ordine a questo problema. Io credo che il punto in comune sia dato dall'esigenza che entrambe queste forme di conoscenza del sociale hanno di costruire e di proporre e di utilizzare dei modelli di lettura. Cioè, dalla necessità che entrambe queste forme di conoscenza sociale hanno di reperire, individuare gli elementi caratteristici delle situazioni che si studiano, organizzandoli in modo tale che nel loro complesso rappresentino in modo perspicuo quel tema che dicevo prima, cioè il potere, il problema del potere. L'uso del modello è chiaramente un sotterfugio. È un sotterfugio sia per lo storico che per il sociologo. In qualche modo lui, il ricorso al modello, tradisce la vocazione specifica sia dello storico che del sociologo. Li porta fuori dal loro ambito stretto di applicazione. Però consente a entrambi di avvicinarsi appunto alla conoscenza del tema centrale che ho detto prima. In questi termini, secondo me, i discorsi che sono stati fatti stamattina trovano una loro, come dire, anche possibilità di unificazione. Perché, a mio avviso, da una parte si salva nella costruzione dei modelli, che sono fatti artificiali, cioè che sono opera di costruzione dell'indagatore, che non presumono di individuare l'esistente così come esso è o è stato, ma che presumono semplicemente di spiegarlo sulla base di una costruzione a posteriori, falsa, consapevolmente falsa, e falsa in modo denunciato. I modelli intesi in questo modo implicano, esigono evidentemente l'impiego di concetti, di categorie, di termini pregnanti. E quindi evidentemente lì bisogna fare lo sforzo di comunque intendersi, di stabilire un codice che sia chiaro, per cui quando si usa un termine si sa a che cosa ci si riferisce. Quindi questo è un primo tema. Secondo discorso, impostato in questo modo la questione, il modello applicato al problema del potere, secondo me non è più possibile fare confusioni tra, per esempio, l'impiego della categoria ceti e l'impiego della categoria classe. Non è più possibile fare confusione tra due momenti che sono diversi, non separati, ma sono diversi e sono separabili nel modello che appunto è artificiale, che serve solo alla comprensione, non alla ricostruzione di ciò che è stato così come è stato. Che sono i due momenti, a mio avviso, della stratificazione sociale, cioè del modo come gli uomini si situano in gruppi che sono disposti scalarmente, e dall'altra parte invece il momento della funzione politica che corrisponde al primo momento della stratificazione sociale. A mio avviso questi due momenti sono momenti, nel modello che è un fatto artificiale, separabili, distinguibili. E quindi su questo piano il discorso della pregnanza dei termini e dei concetti da impiegare viene ulteriormente recuperato. Cosa vuol dire che sono due livelli separabili? Vuol dire che c'è una dialettica costante fra questi due livelli. Vuol dire che il momento della stratificazione è sempre il frutto di un'esistenza, di una certa funzione politica. Però vuol dire anche che da una certa funzione politica viene fuori un certo tipo di stratificazione, ma questo tipo di stratificazione a sua volta produce una funzione politica diversa da quella precedente, che a sua volta produce una stratificazione diversa da quella di partenza. Questo è il nesso che a mio avviso deve essere continuamente tenuto presente, su cui si deve concentrare l'attenzione, la stretta aderenza fra questi due momenti, che implicano che contengono delle continue sfasature. Non c'è mai, secondo me, nella storia una situazione in cui a una stratificazione sociale precisa, precisamente individuabile, chiara e distinta, corrisponde una forma di potere precisa, esattamente conforme, senza sbavature e così via. La storia, a mio avviso, presenta sempre delle situazioni sbavate, delle situazioni in cui ci sono tipi di stratificazione che esprimono dei poteri che non combaciano perfettamente con la stratificazione, che lasciano fuori qualche cosa degli elementi della stratificazione di partenza e che invece prefigurano elementi di una stratificazione successiva. Questo che è, a mio avviso, il mistero della storia del potere nella storia, è davvero il campo principale, privilegiato, su cui si deve applicare l'attenzione e su cui appunto la storia e la sociologia possono. Ora è chiaro che questo discorso è un discorso che scarta radicalmente rispetto a un'impostazione, ed è anche infinitamente più confuso evidentemente, rispetto a una impostazione come quella che rigorosamente marxista o marxiana, come quella che esponeva prima Camarosano, no? Che è rispettabilissima insomma anche da parte mia, però io non condivido perché trovo riduttivo. Perché Camarosano fa, secondo me dice, cioè, per Camarosano mi sembra, per un marxista marziano, mi sembra che sia anche abbastanza facile dire bisogna salvare la specificità della storia, a me non interessa la continuità, sono gli elementi sono diversi, non voglio fare la storia della nobiltà o di questo o di quell'altro, perché tanto. Certo, però qui c'è questa fondamentale categoria della classe in senso marziano che unifica tutto, insomma, cioè che ti dà il criterio interpretativo generale per cui tu la tua novità non la fai, però in realtà parli sempre delle stesse cose. Ma però ne parli in modo che secondo me è stretto, ne parli in un modo che secondo me esclude, ecco, esclude molte sbavature. Non basta secondo me dire con una, un suggerimento molto interessante e molto elegante. Il rapporto fra classe e ceto sta nel fatto che la classe è bloccabile, è individuabile in base all'utilizzo di certi criteri ben precisi e definiti, e il ceto è tutto ciò che fuoriesce dalle definizioni storiche che di volta in volta le singole classi hanno, che rimane indietro, che va avanti. Ecco, cioè mi sembra che questo qui sia un po' un escamotage. Mi sembra che invece in termini di storia costituzionale, cioè in termini di individuazione del potere, del momento del potere, come somma del dominio e del dominato, si riesca a dotare di significato maggiore questi scarti. Questi scarti, insomma, che secondo me in un'ottica di tipo marxista-marxiana appaiono direi prevalentemente come residuali, al di fuori della grande linea dell'interpretazione per classe, in una concezione di storia costituzionale, secondo me, perdono questo carattere riduttivo di residualità e acquistano invece una loro pregnanza. Quindi anche lo studio delle marginalità, delle emarginazioni, ciò che rimane fuori, diventa importante nella misura in cui ha a che fare con il potere, perché ne è coinvolto. Ecco, perché quello che rimane fuori può costituire, delle volte, la premessa di ciò che poi dopo torna dentro. Ora, io mi rendo conto di essere stato molto confuso, di non aver risposto al problema, alla sollecitazione che mi faceva Chittolini. Però, siccome in apertura avevo detto che questa riunione, questo colloquio sul problema dei ceti dirigenti nel Medioevo, l'avevamo pensata anche come, non seguito, insomma, ma come una seconda tappa, dopo un altro incontro che era stato dedicato al problema dei ceti dirigenti, in qualche modo, nell'età moderna, ecco, in questo senso qui, nel senso che riteniamo in qualche modo che il problema del potere sia davvero un problema centrale, quantomeno per quel che riguarda quella forma di civiltà, che secondo me è unitaria e omogenea, che è la forma di civiltà propria dell'Occidente, di questa parte del mondo, in una certa fase della sua storia, che sicuramente comprende però dentro sia il Medioevo che l'età moderna e l'età contemporanea. Inseguire la logica di questo potere, cercare di determinarne le componenti, cercare di svelarne il mistero, insomma, nelle complessità, nella dialettica che questa realtà ha avuto, ha manifestato e manifesta ancora nei secoli, insomma, mi sembra che sia il punto cruciale su cui storia e sociologia possono interferire. Io, capite, che sono abbastanza stupefatto quando leggo, quando io leggo un pezzo di Gaetano Mosca, faccio per dire, appunto, quindi adesso passo proprio all'opposto no? Che caratterizza nei due momenti dell'ereditarietà e della organizzazione gli elementi costitutivi del concetto di classe politica, e poi dopo leggo il libro che hanno fatto a Pisa sulla famiglia e trovo che questi qui mi presentano un modello di storia delle famiglie che si organizza su questi stessi medesimi all'incirca, poi ne discutiamo di pomeriggio meglio, intendiamoci, non voglio mica adesso generalizzare, però, insomma, i modelli, i criteri su cui si organizza il modello che ha presentato la Rossetti, mi sembra che tutto sommato rimanga in maniera aperta, insomma, seppure discutibile, appunto ai criteri che utilizza Mosca per la base di questa situazione. Questo per me è molto significativo, cioè non può essere accantonato, cancellato, messo da parte, dire vabbè, chi se ne frega, però intanto la storia, la sociologia, Ecco. Dove sta il punto di incontro? C'è un nesso? Il margine di sovrapposizione? Quanto è largo? Quanto è stretto? Questo è il problema che mi interessa. Scusate un po' la confusione, adesso immagino che nessuno parlerà più perché la vostra... Sì, allora per riavviare la discussione dico una parola soltanto, perché vorrei riservarmi un po' alla fine, riservarmi un po' alla fine l'altro discorso. Ne parlavo un minuto fa. Con Paolo, insisto sul problema della utilizzazione verticale di questi concetti, perché ho l'impressione che proprio se siamo d'accordo sul punto che c'è una logica di evoluzione della struttura sociale in rapporto al potere, che va dalla creazione del gruppo alla conquista del potere, quindi alla formazione di una classe politica, e insisto sul concetto di classe nel senso marxiano del termine, che poi sarà anche di Gaetano Mosca, nel senso marxiano, perché al momento nel quale questo gruppo, il quale ha trovato degli elementi di coesione e di unità, si dà una costituzione politica, si dà una propria struttura politica, è inevitabilmente un gruppo che fa una scelta di classe, a quel punto, perché rinuncia, e fa una scelta quindi diversa da quella che era la sua matrice iniziale, perché rinuncia in qualche modo a qualcosa di quello che prima era stata, perché ha la volontà politica, di dare la preminenza degli interessi comuni, che in proseguo di tempo, perché darsi una costituzione politica significa volersi dare in qualche modo una continuità, che in proseguo di tempo gli daranno un vantaggio maggiore di quello che non può essere la disunione. Questo è il discorso, e questo io l'ho verificato concretamente, questo tipo di dinamica politica, e l'ho verificato dall'età longobarda all'inizio dell'età comunale. Dicevo che io uso questo concetto di classe politica, cioè ritengo che questo concetto di classe politica sia inevitabile per farmi comprendere che cos'è che in qualche modo ha coagulato, diciamo, questi interessi comuni. E poi aggiungerò di più che la tappa successiva in fondo è la creazione di un ceto. E quando è che diventa ceto questa classe politica? Perché qui la sua continuità è una continuità accertata per un lungo periodo di tempo, è una continuità, chiamiamola se voi volete biologica, ma è una continuità anche di coscienza di essere quello che si è. Dico, quando è che diventano un ceto? Non sono meno classe politica al momento in cui diventano ceto, però certamente ceto lo diventano prima nella coscienza degli altri che nella loro coscienza stessa, quando quel potere che loro detengono gli viene contestato. Ecco, allora quello è il momento nel quale c'è una definizione comune, si conia, ma lo coniano loro, non glielo sovrappongo io, si conia una definizione comune per indicare queste persone. Ed è il momento in cui cessa il loro monopolio del potere. Ed è il momento nel quale vengono chiamati nobiles. Ecco, ora, nel contesto nel quale evidentemente l'ho trattato io, mi pare che questa dialettica dal gruppo alla classe politica all'aceto sia una dialettica che io posso verificare nei punti nodali di modificazione tra l'età longobarda e carolingia, lo posso verificare anche all'inizio, alle origini del comune. Esattamente la stessa logica di sviluppo, oserei dire, per quello che vedo adesso, per un tipo di lavoro un po' diverso che sto conducendo, è esattamente la medesima cosa che si verifica quando innanzitutto loro diventano nobiles, diciamo pure, quando appunto il monopolio di questo potere gli viene contestato, e si conia una definizione diversa per loro da parte di un gruppo che per ricchezza gli sta alla pari, che per formazione non è diverso, è altrettanto non omogeneo, è altrettanto composito di quanto lo erano ora e in fondo continuano a essere. L'unificazione nell'unica etichetta gli viene data proprio perché gli viene contestato appunto questo potere, perché ci sono delle persone che per ricchezza, per censo, per potere economico in qualche modo sono arrivate anche loro al medesimo livello, non riconoscono più nell'iniziativa politica di questa classe, non riconoscono più l'interesse che era anche loro proprio. Allora queste persone sono le persone che in fondo definiscono loro nobiles, perché non li riconoscono più come populus, di cui sono stati parte fino a questo momento. Populus erano anche quegli altri. E quando ci chiamano populus, non è che ci sia nel concetto di populus ci sia un senso di inferiorità sociale, non c'è per nulla, il populus siamo noi. Quando è che viene fuori questo concetto invece di inferiorità sociale? Ma verrà fuori, viene fuori molto probabilmente, io questo è una verifica che ho fatto soltanto in parte, viene fuori quando diciamo il signore, il principe in qualche modo si fa alleati, la vecchia classe politica, i nobiles, e allora include il concetto di una qualche inferiorità sociale, il concetto di populus lo acquista soltanto allora. Quindi quando non mi si venga a dire che non c'è bisogno di razionalizzare, perché purtroppo mi cambia anche la pregnanza del concetto di populus, mi cambia anche nel giro di una sola generazione. Allora io, se ho il sistema per razionalizzare il discorso, se io dico che sono diventati ceto soltanto al momento in cui è venuta fuori la definizione, io capisco qualcosa, io l'interpretazione l'ho data, altrimenti io rischio di non capire più nulla lì dentro e rischio di perdere. Non sto generalizzando, ma il rischio di perdere proprio la specificità della modificazione se io non faccio questo sforzo di razionalizzazione. Ecco perché allora io, rovesciando un po' le premesse che sono state poste, oserei dire: è lo storico che deve inventarsi il suo linguaggio sociologico e deve dimostrare che quel linguaggio sociologico è valido perché è stato verificato concretamente nell'analisi. Allora noi, se abbiamo questa attenzione, questo bisogno di razionalizzare e inventiamo il nostro linguaggio sociologico, allora a quel punto poi potremo confrontarci col sociologo, ma finché lo schema me lo presti il sociologo, il quale ha degli obiettivi totalmente diversi e io non lo posso confrontare con il mio schema, a mia volta con uno sforzo di razionalizzazione, è chiaro che il punto d'incontro non lo si trova. Questo voglio rispondere a Piero. Se noi facciamo lo sforzo di inventare il nostro linguaggio sociologico, per sociologico intendo appunto la razionalizzazione dei fenomeni che andiamo studiando, sono convinta che il punto di conto è proprio qui. Cioè noi potremmo dire allora al sociologo: credo che se tu, interauguro che sia, da sociologo mi hai messo sul medesimo piano, va bene, d'accordo, mi dico, credo che se mi si mette sul medesimo piano o se mi si presentano come alternativi semplicemente, staticamente, il concetto di classe, il concetto di ceto, il concetto di status, il concetto di o come che sia, ecco, allora io dirò al sociologo: tu me li presenti come alternativi, io ti dico che non sono l'uno alternativo all'altro, ma sono concatenati verticalmente. Ora io potrò sbagliare, vediamo, io non ho mica pretesa di avere la verità in tasca, però ho l'impressione che io non gli contesto l'interpretazione che ha dato del significato di ceto, di stando, via dicendo, gli contesto l'applicazione che di questo si fa. Perché? Perché questa applicazione falsa le prospettive. Ecco, evidentemente questo è il punto di vista dello storico. Però non mi pare, ecco perché io prima ho detto che la sociologia è il futuro della storia, però non mi pare che il sociologo abbia elementi per diciamo rifiutare in qualche modo una indicazione di questo tipo. Perché per quanto breve sia il futuro che si pone davanti il sociologo, è tuttavia anche la sua una visione prospettica. Insomma, ecco, avrei voluto essere più lucida, credo di essere stata un po' confusa nel darvi questa spiegazione. Mi pare che mi sia riuscita meglio, visto che ci eravamo tornati sopra anche in quella sede a Pisa, mi pare che mi sia riuscito di spiegarmi meglio allora. Però ecco, io credo che il punto di incontro potrebbe essere su questo piano. Però è lo storico che deve inventarsi il suo linguaggio sociologico, se lo vogliamo chiamare sociologico, chiamiamolo una sua razionalizzazione della realtà che indaga, e certamente non è indifferente usare un concetto o un altro, anche per questo che sono tutti concetti che si sono caricati nel tempo di una quantità di significati e che quindi noi non possiamo fare a meno, se storici siamo, di confrontarci con questi. C'è poco da dire, dico, ce li abbiamo lì, ecco, quindi prima di inventarne di nuovi vediamo di chiarirne il senso profondo, insomma. Oppure, e quando li usiamo, di dire: lo uso in questo senso. Ora, mi pare che se poi si va a trovare che il concetto di classe politica usato in questo senso coincide con quello che ne ha dato Gaetano Mosca, va benissimo. Insomma, io non ho mica preteso di fare una cosa diversa da quello che aveva fatto Gaetano Mosca, ma non credevo neppure di fare la cosa identica. Per me in quel momento l'uso di quel concetto a quel modo rispondeva all'esigenza che io avevo di razionalizzare quel fenomeno che stavo studiando. Però ti devi interrogare se la coincidenza c'è. Ecco, se la coincidenza c'è, non può che farmi piacere. No, non solo, ecco. Cioè, questo è narcisistico, ma cioè, c'è anche un fatto in più. Dimostra allora che altre verifiche sono arrivate allo stesso punto e non sono solo la coincidenza. Cosa vuol dire? Vuol dire se per caso, dico. Non preciso, perché a un altro non piacerà poi evidentemente, cioè, no, ma non importa, dico, il tema di poi di conoscenza è importante che da un punto, se è vero che ci fosse eventualmente una coincidenza, che forse non c'è, questo è da discutere, ecco. Questo è da discutere, però da discutere a fondo, secondo me. Io lo sentivo più vicino alle posizioni marxiane, non è un caso che abbia parlato di quelle, anche vabbè, se il fatto poi di vedere quanto molti sia vicino a Marx è tutto un altro discorso, cioè, perché no, qui i discorsi si dilatano a dismisura. In termini metodologici, sì, il fatto che una coincidenza ci possa essere ti pone l'interrogativo del capisci? Che cosa c'è sotto, insomma. Adesso direi Borlandi e poi Sergi e poi Mozzarelli e poi Nobili e poi andiamo avanti il pomeriggio, l'impressione. No, nell'età moderna mi sembra che ci sia una situazione in cui i ceti dirigenti si identificano con i ceti economicamente egemoni, mentre per quello che è la mia esperienza questo non avviene prima o non avviene sempre, per cui mi sembra che sia una cosa da tenere presente nello studio di quello che si chiama il potere, il fatto che il potere economico, che poi quello effettivo, quello determinante, è in mano a gente diversa da quella che ha potuto vivere, con tutti i giochi, le combinazioni, le combinazioni a cui questo potere è sì, questo qui, cioè. Adesso comunque direi che è un elemento importantissimo anche questo qui, ma che immagino andrà recuperato poi in specifico nella discussione del pomeriggio, quando si va poi, no, penso più nel dettaglio delle ricerche, così, perché credo che sia abbastanza così problematica la questione, come l'hai posta tu, sia per quanto riguarda l'età moderna che per quanto riguarda l'età precedente, insomma, non lo so, io non. Beh, comunque ne parliamo magari oggi quando entriamo più nello specifico. Sergi. Un chiarimento pubblico che ho già fornito in privato a Cittolini, ma che mi dà spunto per un'ulteriore osservazione. Quello che io volevo dire non è certamente, anzi tutt'altro, rivendicare il diritto all'imprecisione di usi terminologici. Io auspico la pregnanza. Io proponevo molto concretamente un problema di metodo, ci tengo molto però. È un problema di metodo quello di non poter presumere che quella pregnanza ci sia nelle cose che utilizziamo quando operiamo una ricomposizione in chiave di sintesi di varie letture storiche specifiche. Non si può presumere questa pregnanza, sarebbe un grave errore farlo. Questo è un problema di metodo su cui vorrei insistere e questo era ciò che volevo dire. Anche perché la discussione successiva me ne ha in parte convinto, io in fondo una cosa che prima nell'intervento ho dimenticato di dire, che in fondo era il mio auspicio che tutti, lungi dal essere imprecisi nell'usare i termini in questione, facessero in fondo anche all'inizio dei loro lavori delle dichiarazioni di scelta come quelle che Camarasano ha fatto. Questo sarebbe molto positivo. Ecco, forse nutro meno illusioni sui tempi di questa tendenza verso una pregnanza complessiva, perché mi sembra che ci sia ogni tanto da si presupponga una sorta di neutralità delle formazioni storiografiche che evidentemente non si può presupporre. Mi convincono che faccio bene a non presupporre le osservazioni di Schiera Cammarosano, mi convincono che faccio bene a non presupporre gli stessi chiarimenti sui suoi usi della Rossetti, le osservazioni sulle coincidenze che sono state ora fatte. Sono convinto che vada bene forse la strada di inventarsi un linguaggio che come quello della settimana sociologico, ma questa non può che essere una tendenza che ha tempi lunghissimi, una tendenza che non può tener conto, essendo neanche fortemente influenzata e forse anche quindi indotta a non avere, non so neanche se sia giusto avere questa fissazione della neutralità da cui sia possibile arrivare ad un utilizzo di termini che non tengano conto di quelle formazioni storiografiche, perché si è parlato di termini che si sono caricati di significati al punto tale da non poter trascurare questo caricamento di significati. Di conseguenza, essendo che c'è una tendenza che ritengo positiva verso questa pregnanza, ritengo però che sia nel frattempo compito dello storico continuare a lavorare pure nell'arte di questa tendenza, riducendo al minimo i fraintendimenti, a ridurre al minimo i fraintendimenti vuol dire tener conto che la pregnanza il più delle volte non c'è, o vi sono diverse pregnanze, questo è il punto. Scusa, se intervengo, ma tengo conto di dire non ci capiamo, dobbiamo spiegarci meglio. Un conto è dire la pregnanza non c'è. Sono due cose che mi sembrano diverse. Sulla prima sono d'accordo. Ci sono entrambe le cose, secondo me ci sono entrambe le cose. Ci sono dei casi in cui sono d'accordo con te a condannare i casi in cui la pregnanza non c'è perché non vi è consapevolezza del problema, allora c'è una genericità dell'uso dei termini che indubbiamente occorre recuperare. Io sono contrario a questa posizione. Ritengo però che invece si debba lasciare il diritto a persone di diversa formazione di usare invece una pregnanza, come dici tu, che però non necessariamente si configura in una certa fase di questa tendenza che si definiva come convergente rispetto ad altre. Non si può, insomma, eliminare dall'oggi al domani questa carica di significati che i termini hanno ottenuto in ambiti di formazione diversa. Giuseppe, però allora sia positivo cercare di superare questi diversi linguaggi, ma ripeto, è una tendenza che si deve affrontare come tale, insomma. Sappiamo benissimo che non è da una riunione come oggi e non dall'oggi al domani, quindi investiamo anche dei modi di funzionare in cui è fondamentale la chiarezza, ma che ci facciano lavorare in un futuro prossimo, non soltanto in un futuro lontanissimo. Sì, ma Giuseppe, in questo caso però allora l'avvertimento è questo, come tu dicevi prima. Io ho rilevato prima, nei confronti di una posizione pessimistica come quella che ci ha detto il Pini, ho rilevato che però la definizione noi la situiamo a livello di coscienza del sistema e la deduciamo dalle fonti. Allora, non si usi però in questo caso, indifferentemente, classe dirigente o ceto dirigente o oligarchia o nobiltà e via dicendo, si abbia rispetto per il linguaggio della fonte, perché altrimenti non c'è barba di razionalizzazione che possa fare grande storico come Duby, che possa capire poi da una congerie così confusa di indicazioni qual era poi effettivamente l'indicazione che dava Alfonso. Capisci che è un grosso, questo è un grosso rischio. Allora dico, uno va bene, fa l'analisi con questo rispetto del linguaggio delle fonti, se gli è possibile, cerca situazione per situazione. Siamo Bordone un momento. Scusa, Adele, ma è evidente che quando uno usa il termine stesso o il termine classe non può parlare di realtà delle fonti, non è filologico, perché non esistono delle fonti. Appunto, sì, ma per definire che è sempre mediato da un tipo di pregnanza che tu dai a questi termini o che una certa tradizione dà a questi termini. Per cui è chiaro, noi siamo i primi a sostenere la Spagna Franca, la violenza alla fonte, quando si tratta di usare migliore, di usare nobile soltanto e quando la fonte ti offre questo termine. Ma quando tu questa cosa cerca appunto di razionalizzare, che dovrebbe essere questo scopo, come dire, parallelo sia della storia sia della psicologia, e introduci dei termini che sono pensati nelle categorie, come dire, a posteriori, è evidente che forse violenti la fonte, perché il termine stesso è il termine classe, nella fonte medievale non lo trovare. Sì, però ti volevo dire anche un'altra cosa, che allora un conto è parlare. Un conto è sostituire, cioè voglio dire, l'inutilità, un conto è parlare della necessità di razionalizzare e di un uso cosciente di questo, un conto è dire, come lui ha detto, l'inutilità di distinguere, perché qui siamo su due piani diversi. Adesso interrompiamo il dialogo perché no, poi dopo sono sedimentazioni. No, però questa cosa qui che ha detto Bordone mi sembra molto importante, cioè il fatto della violenza. Io credo che sia faccia parte delle competenze specifiche dello storico quello di violentare, cioè penso che sia ideologicamente fuorviante ritenere che lo storico non violenti, insomma, questo qui è categorico per me, insomma, ecco. Adesso c'era Mozzarelli che voleva parlare. purtroppo la buona parte viene visto. E questo fatto è ancora più grave quando io sono un milista e quindi a questi momenti comunque sono sempre nello specifico di oggi che studia la e tutto ciò nel mio intervento, no? Questo breve riassunto, ovviamente è molto passato, complesso, sì. Mi sembrava che ci sono alcune cose che potevano dire. E in particolare, no? Quando si parla di molti molti altri studi intervento, quando si prende il tema, no? Che il discorso della sociologia che è fatto 70-80 anni fa, e quindi quei conti sono più di allora e vanno a tenere. Quindi credo che i discorsi 70-80 anni fa, cioè nel 1900, siano stati discorsi che chiudevano un discorso allora, cioè se noi prendiamo quei discorsi come un discorso sulla storia e la teologia, prendiamo quei discorsi che sono terminare rispetto a un dibattito che comincia prima. E questo è importante perché in quel momento i giochi erano fatti, cioè sono stati giochi fatti per praticamente fino a Roma. È il momento in cui veramente il potere compare come oggetto della sapere, ma compare anche la società. Cioè, la sociologia, no? È davvero un residuo, ma è un residuo in quanto, non tanto in quanto collettare o autoreggente, ma in quanto diventa la scienza specifica, quindi diventa il modo scientifico di studiare la società. C'è quell'argomento che, proprio perché perdono, cioè, si riesce di rendere in termini impropri, diciamo, autativi, diritto all'economia, no, non è più da studiare, cioè, vuol dire, diritto all'economia, questo punto qui, essenzialmente, perdono anche rapporto con i principi filosofici, con ideali, idee, tutta potenza. E, di conseguenza, studiano lo Stato come dato, il mercato come dato, e non certamente la formazione sociale nel suo complesso, che viene recuperata come studio della storia. E a questo punto come si non perde nulla, tanto è vero che in Italia del resto la sociologia è scomparsa, c'è stata l'Italia, ma proprio a quel punto lo stesso gioco che il giurista e che noi fanno il loro conto suo, dicono cose diverse, e dicono cose diverse anche il sociologo e lo storico, ma lo storico non è perché si sia salvato e si è diventato più bravo, è perché l'hanno cacciato prima, se vogliamo, adesso lo dico ovviamente tutto lì un po' un provocatoriamente. Cioè, questo stesso processo, quando si parla della scuola storica, io credo che lì non sia stato un problema di giustificare attraverso la storia. O meglio, questo è soltanto un secondo passaggio, non è che attraverso la storia, la parte provocatoria, diciamo, la scuola storica, è di far vedere attraverso la storia come non sia vero che esiste la mano di Dio, esistono i principi liberali come principi assoluti. Quindi la scuola storica come qualcosa che disgrega un precedente, tant'è vero che marginalismo da una parte, formalismo giuridico dall'altra, sono quelli che cercano di recuperare una certezza al di qua della storia. No? E un momento, ma anche il concetto di più paradossale di potere, no? Come insomma debito, quello è il tipico frutto di una regressione che riprende i termini marginalisti, cioè esistono delle forze che si incontrano, ognuno può andare sul mercato per un motivo, un altro per un altro, alla fine sono più prezzi che quello giusto, perché a questo modo un film fondava che la situazione del libero arbitrio non si pone più oggi, perché era un specifico. Ma per questo a questo punto ci sarà quello che fa una scelta e quello che fa un'altra, ma alla fine avremo sempre un risultato con i mezzi. Ecco, io credo, non so se queste cose hanno un senso comune, ma in modo. Voglio dire questo. La storia a quel punto, no? Cosa era diventata? La storia è diventata la storia dell'individuale, no? Ecco. e si deve dire ciò, la storia che perde ogni fondamento, cioè la storia diventa il fatto estetico, no? Ecco, e niente dello spirito, tutto questo discorso. E secondo me, quello che è successo allora, quindi non 70 anni fa, ma direi esattamente 100 anni fa, è qualcosa di cui portiamo le conseguenze e che però si è bruciato, io credo, la possibilità di ricomposizioni a breve termine del sapere o cose del genere. Perché? Perché in realtà in quel momento lì, dopo arrivo a una maggiore, ma non si sembra che vada tutto lontano, ma insomma, dovrei arrivare. Dicevo, questo stesso momento lì è stato il tentativo appunto di fare la scienza, le scienze, che diventano scienza dello spirito, scienza naturale, e la sociologia diventa una scienza naturale, no? Quindi a questo momento la parola diventa di scienze sociali e politiche assieme, quindi diventa di scienza dello Stato, cosa possibile. Voglio dire, a quel momento il sapere diventa, per trovare tutta fortuna, un sapere senza fondamenti. Fate ancora un po' il turbo, guardando la cultura, però no, ma dico, per esempio, sulla tecnica, no? O se vogliamo le categorie del turismo, degli anni 30, sono poi il frutto di questa mancanza di fondamenti. Il fatto che alla fine non si dedica alla sua forza, oppure si prescinde dal liberalismo per fondare un nuovo o l'armonia sociale, o lo stesso sapere, cioè, in qualche modo si deve andare al di là, all'indietro per un punto. Ecco. E venendo ora al concreto, cioè, questa posizione cosa vuol dire? Ma secondo me questo fa sì che sia molto difficile, se questa sapere ha avuto queste esigenze perché era legato alle esigenze sociali del momento, no? È molto difficile poi uscire da questo con un atto di volontà. Cioè, quindi fondiamo, adesso mettiamo d'accordo e riusciremo a capire il potere, ad esempio. Che credo che sia il problema che bisogna ovviamente studiare, soprattutto questo potere che è il compatto. Però, ecco, nelle proposte che bisogna un po' anche del Miserauer, ma anche questo discorso, per esempio, Mosca Rossetti, questo parolino, ecco, oppure il discorso che facevamo con Rossetti in proposito di come diventano del potere, così diventano nobile. Non lo so, io sento un forte sapore di naturalismo, cioè è un processo che ha le sensazioni definite una volta per sempre, no? Cioè, provocatoria o da branco e così via, no? Così a questo modo si costituiscono gli aggregati sociali, a questo termine, no? Prima c'era classe, poi diventa centro, poi dopo c'era posizione. Ecco, allora a questo punto cosa posso dire? Io credo che, intanto non so se dovrei orientare le fonti, però è quello che si può dire che essenzialmente ciò che esiste di rapporto fra non tanto chi sono i protagonisti, non tanto quanti da quelli che sono i protagonisti, ma che rapporti ci sono fra delle entità X che forse arriveremo a definire definendo un rapporto. Cioè, chi sono i nobili per stare per esempio? Non tanto, secondo me, quelli che vengono fuori da quel filo, ma quelli che hanno certi rapporti con degli altri. Quindi, è un'altra cosa, è chiaro che lo può, quindi l'utilità di utilizzare, non so, un termine di Trump, una parentesi, o quelli che la dialettica costituzione politica. Io mi chiedo, ma questa dialettica è nel reale o è nel modello? E questo non mi sembra molto da definire, perché no? Ecco, dicevo, quindi dare il genere del tratto del soldo, quando ad esempio si creava la sentenza un po' per questi poveretti medievali, che erano il termine di orto e che era quello impreciso, no? Che dentro si stava tutto, no? Ma forse questi semplicemente ragionavano in modo diverso. Io non so cercarmi il senso complesso di Brumer. Ma insomma, alcuni almeno si potrebbe immaginare come un percorso circolare queste definizioni, no? Cioè si andava dall'alto al basso e poi per connessione di te si partiva, non so, quindi l'obitona e via dicendo, si tornava lì. Ecco, io credo che ci sia la difficoltà, perché le idee erano distinte? Così il termine posto loro lo usavano in questo modo così vago, così fuori senso, evidentemente andava bene per loro, per le università, per ricomprendere le cose all'interno della società. Per cui ora una volta potrebbe dire in un modo, un'altra volta potrebbe dire in un modo diverso, come allo stesso modo anche noi oggi usiamo classe in un modo, loro. Chi vuol dire una certa cosa da una classe in un modo, chi vuol dire un altro da una classe in un altro modo. Ecco. Quindi, una modesta proposta, e non lo so, io credo che si possa conoscere per rapporto, cioè, dopodiché il problema è che ugualmente aperto, che anche questi rapporti non sono quelli di fondamento. Però, senz'altro, secondo me, è il tentativo così, di una violenza più dura, se possibile, sulle fonti. Si pensiamo, insomma, a come Benjamin ha finito nelle ultime 300 una storia che fa, l'alternativa a questa presenza fondamenti, in modo più allusivo, è stata la storia fatta, cioè un fondamento esterno alla storia stessa. Quindi l'unico modo per dare certezza a questo, quindi è anche quello che quindi della storia che si scrive, e nella scena che cosa che si proponendo. Nobili c'era. Io volevo tornare un po' di secondo di insieme con il tema, cioè questo discorso su carattere specifico di questa conoscenza storica, di cui poi si discute di questo. Volevo farti l'animale, che avevo già usato la vita. Che diceva Novali, ogni conoscenza è una rete, e solo già butta bene. Bisogna intendere bene quali figli e di quale materiale, come si intendono i figli di questa rete. Noi vediamo da un secolo a questa parte di questa rete continuamente scrittori che la puntano, la riputano, pensano pezzi diversi, così, e continuamente questa rete si rinnova, perché sono sempre reti diverse, sono delle dati, e la qualità, il valore di questa rete è data diciamo, dai problemi ermeneutici che la tradizione storica, che poi continua la nostra tradizione, poi continuamente di fronte, per molto in molti mesi, sono vari problemi ermeneutici che bisogna risolvere, e molto spesso il valore di questa rete si commisura alla sua capacità di risolvere questi problemi concreti di documenti, di ermeneutica, eccetera. Adesso però ci sono, diciamo così, dei livelli epistemologici diversi, cioè, e ci sono dei livelli di spiegazione diversi. Prendiamo allora, per tornare al discorso di Mosca, dei Greci, poi di Tamarosano, che ha fatto questa mattina, per tornare a un problema, diciamo così, che nella storia medievale molto sentito, la famosa spiegazione delle lotte fiorentine, delle età di Dante, l'una parte, una parte che era Sardegna, da quell'altra che era Tocata. Sappiamo che Tocata, più o meno, che faceva un modello di Mosca, che non si è successo in mai. Noi abbiamo visto che usando quelle reti diverse, pensano in una maniera diversa e danno spiegazioni diverse di certi fenomeni. Allora, chiediamoci un po' di cosa diceva Sardegna, perché questa gente si scuota la testa? Perché si scuota la testa? È un documento adesso una lettera del genere così c'è questo un dato che andava avanti sul testo, il concetto di stato della psicologia sociale, con particolare riguardo alla teoria delle masse è un documento di decisione di Farinata e di Dante quando si incontrano nei libri. A un certo momento la prima cosa che Farinata chiede a Dante gli fa chi fu il maggio tu? E c'è si stabilisce subito un rapporto di interazione tra gli individui. Cioè, di un fatto più maggiore, cioè, si definiva per questo variata, parlava tanto di etica attraverso le maggiori cattivanti nati, quindi uno dei criteri di questa novità. Quindi in base a questo che anche poi a un certo momento era nuovo di genere che vado questo fare. Però a un certo momento arrivava meno di loro che spaccavano la testa perché uno era questo e l'altro era di lì, quindi era un criterio di passione che fa funzionare il modello diciamo, di poi c'è ancora un altro fatto che pur essendo guerri di benzina erano però tutti e due benzini. Quindi a un certo momento c'era un livello superiore di interazione, di forma di integrazione di queste persone, diciamo che era la fiorentinità per cui a un certo momento quando sono fiorentino anche tutti siamo di Firenze anche se in mano ai guerri non ha di tutto perché sono fiorentini. Poi c'è ancora un altro livello di integrazione per cui sono cristiani, magari non sono maomettani, non sono calvisti, non sono cinesi, in cui il fatto è che si riconoscevano che c'era come lui e Dante lo schiaffa all'interno perché lei è proprio della sospetta di quindi abbiamo capito questo modo che funziona in una certa maniera e loro sono rappresentati in una certa maniera. Se andiamo a vedere lo so 30 anni dopo, 50 anni dopo o adesso questi tempi rapporti interazioni non sono più gli stessi, si capisce, non sono più le stesse modificazioni, c'è qualcosa che è cambiato. Allora, qui c'è da vedere questo mutamento sociale come si deve definire. Quindi, uno che è marxista, ecco, possiamo usare le due categorie, comincia dal marxismo, eccetera, così, parla di rapporti, diciamo, di produzione di rapporti sociali obiettivi, che sono indipendenti da certi aspetti da rappresentazione che uno ne fa, perché si possono togliere. O se uno è Freud, diciamo così, parla anche di rapporti, diciamo così, che spiegano diciamo, il funzionamento in base ad altri criteri, qua, quindi è tutto via sicuramente matematica della fisica. Quindi la raccenza è anche questo, Dante mica quando si spiegava perché siamo di dare questa rappresentazione mica sta a dire, mica parla di strutture sociali, di materiali, che c'è una sola rappresentazione immagine del mondo e perché si portava una testa, non si portava la testa. Però ci sono dei rapporti sociali obiettivi che fanno mutare la società, per cui un mercante, parlo di per dire, che produceva, faceva una determinata lavoro, produceva un determinato tipo di strutture appoggiate da altre cose, produce qualche cosa, cioè dei rapporti sociali nuovi, anche lui dopo cambiano di per sé, l'obiettività delle cose è così. E in base a questo però in una certa società questo mercante non può nemmeno essere considerato. Può essere addirittura fuori dall'ordinamento col logico dell'ordinamento complessivo della società, come avviene per caso nelle rappresentazioni che si fanno, nel senso io nell'undicesimo, tredicesimo secolo, dal primo di oggi, eccetera, lavoratore. In questo lavoratore, diciamo così, non era prevista questa funzione del mercantile, era un modello diverso. Quindi proprio i mercanti c'erano. Quindi a un certo momento agiscono. E quindi abbiamo dei rapporti sociali obiettivi che si tiene conto a lungo periodo, per forza vanno presi in considerazione, quindi a un livello di spiegazione di un certo tipo. Se però io vado a perché si sposavano la testa i detenuti in quel periodo, entra un tipo di rappresentazione, di spiegazione di tipo diverso. Devo tenere conto di altri fattori di interazione. Allora non si può venire bene la psicologia sociale, si può venire bene il discorso anche del fatto che la società funziona in una certa maniera, con certe comunità, di famiglie, eccetera. Quindi questa rete, diciamo così, deve tenere conto del. No, come dire, sia dei periodi della cristiana, di tante cose, perché un senso di diverso. Allora, però questo storico va sempre considerato questa scienza storica a livello sempre di interazione, diciamo così, con tutte le altre scienze sociali. Cioè con tutti, perché che cosa fa? Lo storico quando parla, usa il linguaggio dell'analisi di un certo minerale, usa gli strumenti della linguistica, che poi cosa fa? Allora la linguistica è la storia, no. È una scienza diversa. Se usa il linguaggio della psicologia sociale, usa queste cose qua, è un po' da fare. Quindi un conto, ne avendo il controllo questo per sapere da quali formazioni scientifiche saltano fuori questi concetti. Sì, per forza ne avere. Addirittura c'è la proposta, non so, perché va prima su un articolo di Adriano sul concetto di scienza o. Cioè, come quando si organizzano i dipartimenti, università, eccetera. In America, perché poi il concetto che sta alla base di questo libro qua, quindi questo libro che io spiego dietro c'è Dumentini, i concetti di funzionamento della nostra mente, antropologia, tante cose così. Quindi dei quei gruppi che in America non so che hanno comportamentalistico, gruppo per, non so, cioè uno prende un linguista, un linguista, un sociologo, un psicanalista, eccetera, poi prende uno scopo, i documenti storici, un problema storico, un livello di certo senso, poi vede questa gente qua, queste tecniche come la sarebbe come fa più che lui padroneggia in qualche maniera queste tecniche, però le fanno come poi l'applica è una forma di bricolero storico bene. E uno delle cose e quindi il discorso non è che lo storico si inventa, volevo dire che non si inventa affatto lo storico si ma gli utenti devono nel senso di dire che lo fa proprio, mica che lo inventa ex novo, è chiaro che ha dietro un sostrato culturale, se no non avrei neppure detto che si sono caricati di tanti significati, se non immaginavo che dietro c'era un portato culturale così complesso come quello che c'è. Inventa, che nel senso di dire lo inventa perché lo fa suo. Sì, d'accordo, ma insomma, dico adesso cerchiamo di intenderci. C'è Pini che giustamente vuole difendere, è stato così parafulminato. Sì, allora, il discorso è quello che ho detto prima, che chiaramente poteva essere difficile, mi pare che sia stato stimolante la discussione, ma era evidentemente anche provocatorio. Provocatorio partendo però da dei dati ben precisi. Cioè, la constatazione che dopo 100 anni, mi pare che sia abbastanza, anche poi in un certo momento il discorso forse è stato abbandonato, mi fa importante, eccetera, dopo 100 anni siamo ancora qui a discutere su 4 o 5 termini, non solo noi storici, ma anche i sociologi sono allo stesso modo. Non stiamo ancora trovando una soluzione che sia che ha un certo margine, diciamo che possa essere a condensare tutti, e sono le parole, classe, strato, gruppo, non lo so, che potremmo trovare una cosa forse solo su carta, ma purtroppo le carte non le abbiamo, e allora la cosa non è presa. Allora, cosa abbiamo preso? No, ogni volta il discorso riparte da capo, e sono in tutto 4-5 concetti. Secondo, parte dalla mia, non so anche se di altri, insofferenza a volere a tutti i costi avere un modello. E questo è veramente un vizio che, non lo so, non credo che gli storici lo avessero avviso, probabilmente è una cosa che la vede. È la gente, ma quello infatti adesso è una forse una nostra ispirazione, ma questi modelli che il modello stesso in cui cerchiamo di costruire ci accorgiamo subito che non funziona, non funzionano nemmeno per noi, figuriamoci se possono funzionare per gli altri, per altri. Allora, chiaramente a questo punto, fatte queste constatazioni, io richiamavo che mi rimo a un certo margine di precisione terminologica, il che non voleva dire fare. Sente quello che è non volere capire, perché se no allora è così. Qui è chiaro che io voglio capire il fatto, l'avvenimento, il periodo storico, la società del tempo, tutte queste cose. Quindi cerco di capirle, ma voglio lasciare un certo margine, e credo che questo, anche se non richiamate l'attenzione su questo, succede lo stesso sempre, su una certa imprecisione terminologica. Anche come dicevo prima, perché questo secondo me è positivo, non è negativo questo margine di precisione, è positivo in quanto mi permette proprio di vedere i fenomeni più a tempo lungo e più a spazio largo, di quello che invece sarebbe la cosa se io precisassi, che la cosa mi pare abbastanza possibile, precisassi in un preciso momento storico, in un preciso tipo di società, l'uno che faccio io in un certo tempo. Non parliamo delle differenze appunto ideologiche che sottostanno all'uso della stessa parola. Un'osservazione che ha fatto è stato benissimo Bordone quando dice sì, non si può però dire come dice la Rossetti, restiamo al documento, alla terminologia del documento. Perché la terminologia del documento non va mica molto in là. La terminologia del documento anzi può essere estremamente fuorviante, nel senso che c'è una terminologia direi che si trascina per decenni se non per secoli, che è appunto quella degli ordini, non vuole dire assolutamente niente. Sul problema, invece, sono d'accordo con la Rossetti, che è compito dello storico inventare un suo linguaggio sociologico. Chiamiamolo sociologico, sì. Chiamiamolo come vogliamo. E sono d'accordo che allora a un certo momento nobile populus per noi che l'avevano significato, se vogliamo capire questa società. E a questo punto mi pare che sia giustissimo quello che dice, sono veramente d'accordo, che dice la Rossetti, che i nobili, il termine nasce quando questa se vogliamo, per me non interessa questo termine a questo punto, e stanno perdendo il potere se qualcuno glielo contesta. Questi sono chiaramente d'accordo, quindi il termine nasce all'inizio del 200. E Nanzi attiene in un certo senso quello di popolo scaricato di certi significati, che anche qui in questo caso si tratta di detto, eccetera, non è più un popolo pisano, come dire, tutti i cittadini di qui, però per esempio. Non sono le cose, mi sembra che tu dovresti meglio, io trovo sempre un certo caso, una sua parte del discorso è quella che c'è qui, e l'ho detto anche prima, secondo me non è vero che il popolo sia la stessa cosa, cioè il popolo fosse una cosa unica, per cui si stacca l'impegno, quella che viene chiamata l'impegno, e sono i nobili. Allora si carica l'altra parte che rimane, No, è diversa, Antonio, scusami, ma è diversa. Io, se adesso intendiamoci un secondo, la osservazione di Bordone era esatta, ma non era applicabile a quanto avevo detto io e forse c'è stato un fraintendimento. Rimanere alla... Ma detto ma chiamato? No, io interrogo il discorso nobile popolo, no? E quindi secondo me il popolo è quella parte, diciamo, sociale, quello che sarà, il quale cerca di arrivare a quel potere a cui non è ancora arrivato. Cioè sono gli studi del momento precedente, sono gli studi di quello che tradizionalmente chiamiamo il comune. Io poi vorrei inserire un ulteriore elemento tutta una discussione del diverso che stiamo facendo, richiamando quello che diceva ieri, che mi sembra molto giusto, come quando la storia della sociologia danno dei terreni comuni, la storia culturale soprattutto, il rapporto tra i dominanti e i dominanti, e cioè il discorso della democraticità dell'età comunale. Mi pare che adesso sia il vento di dire che questa società non era democratica, insomma non lo so, probabilmente questa società sembra una società chiusa, tutta stretta, si parla di oligarchie quasi che non esiste. Mi pare che Camarosano su questo punto abbia tranquillizzato molto nel suo discorso. Quindi... Comunque, secondo me è un elemento che forse oggi possiamo riprendere perché che io credo che vada ribadito. Nuovo chiare lettere che c'è un momento democratico, diciamo pure tra virgolette, questo democratico nella storia della società europea, occidentale, eccetera, prima del, se posso dare il termine, prima dell'Unione Francese, quello è sicuramente è la novità, quello è la novità. Questo va ripetuto con i numeri alla forza. Io vedo che a Bologna ci sono dei consigli di 4.000 persone, su una popolazione di 50.000 persone, se tiriamo via l'ultra settantenne, abbiamo già detto il perché, tiriamo via quelli prima di 18 anni, tiriamo via le donne, dopodiché d'accordo, far parte di un consiglio non vuol dire decidere, cioè vuol dire essere un elettore, non è detto che necessariamente poi uno sia un eletto, però vuol dire secondo me già molte cose. Non so se Rossetti vuole chiudere la discussione stamattina perché... No, ora... io mi esprimo molto brevemente perché sono tutte cose su cui torneremo molte volte. Su quanto alla fedeltà, all'uso delle fonti, più che fedeltà si tratta, e quindi è un po' una risposta anche a Mozzarelli, il quale però deve aver avuto un treno che partiva. No, è là dietro. Dicevo quello che ha osservato diciamo che si deve badare ai rapporti, questo è verissimo, ma è quello che diciamo io do per scontato quando mi sforzo poi di ricavare le categorie, sono costretta a parlare per comodità di discorso soltanto delle categorie. e allora vengo all'uso fedele della terminologia usata dai testi. L'uso fedele della terminologia usata dai testi non basta. Non basta. Se io ho dato questa impressione, ho sbagliato, perché in realtà, e credevo di averlo spiegato parlando di come si modifica addirittura nel giro di una generazione il concetto di popolo, o nel giro di una generazione il concetto di nobile, nel contesto stesso nel quale io lo vengo trattando, se io continuo ad usare quel termine senza cercare di razionalizzarlo, io francamente non do il senso che la realtà è mutata. Continua a modificarsi la funzione rimanendo uguale il termine, oppure il termine si carica di un significato che prima non aveva, e vengo al popolo suo, e vengo al popolo suo. Quando io ho detto, non ho detto che si stacca il ceto dei nobili dal popolo, i nobili, quelli che poi verranno chiamati nobili, ma l'importante è il momento nel quale lo vengono chiamati. Noi abbiamo un unico popolo, il quale evidentemente ha a livello politico, a livello alto, dei propri rappresentanti, e in qualche modo in quella classe ci saranno certamente alla base dei fermenti, ci saranno anche delle discussioni o delle dissensioni, qualche volta poi queste scoppiano e vengono fuori. Però voi capite che io a quel punto ho a che fare, continuo a riferirmi al livello della coscienza del sistema, cioè a livello di quando la definizione muta, una definizione che non ho inventato io, ma che muta da quel contesto. Quindi io potrò guardare come muta la realtà effettuale, però certamente devo riconoscere tempi diversi alla modificazione della coscienza, che può venire un po' dopo, non so se rendo l'idea. Quindi io lo conduco sui due piani, perché sono uno che lavora dal basso, però certamente al momento nel quale vado a toccare la definizione, io vedo a che momento arriva al livello cosciente. Ecco perché io dico, allora a questo punto, se ci siamo intesi su questo, io ti dico che populus è tutto quanto nella coscienza comune, diciamo il popolo spisano, finché le iniziative politiche di quelli che detengono di fatto il potere, avendo una rappresentanza che in fondo non riconoscono più, perché poi bene o male fanno quello che vogliono, creano quella reazione per cui gli altri, tutti quelli che sono esclusi, non si riconoscono più nelle iniziative politiche. Su questo canale dico il popolo siamo noi, ma non è ancora la parte, questo viene un pochino dopo. E quando arriviamo alla parte, allora populus e nobiles diventa la contrapposizione. Chi conosce il termine di nobiles per tutti gli altri sono esattamente quelli che dicono il popolo siamo noi, questi sono i nobiles, viene fuori da me, capito? Quindi non viceversa che si stacca, ma avviene. Io poi a questo punto, se ho usato il termine a livello di stratificazione, cioè quando vengono chiamati maiores, quando vengono chiamati i maiores, in rapporto a medi e a minore, io ho usato il termine di classe politica e non ancora quello di ceto, è perché avevo una indicazione di stratificazione sociale. Quando ho usato il termine di ceto è perché io avevo una indicazione diversa, cioè avevo quell'indicazione di nobile. Cioè io potrò sbagliare e non sbagliare, ma certo che io non l'ho voluto teorizzare o fare la Gaetano Mosca della faccenda. A quel punto ho dovuto scegliere un termine per far vedere che si era modificato il significato. Hai capito? Quindi senza voler teorizzare, perché io dico cosa intendo per inventare. Cioè io a quel punto ho avuto bisogno di un termine che mi facesse sentire, anche per chi mi leggeva, che io avevo notato una differente connotazione, che volevo proprio cogliere quel punto della modificazione dei rapporti, e qui vengo al discorso di Mottarelli. Quindi ho detto che io posso diventare la teorica dell'uso sociologico di termini che ho preso, pie pari, sbattuto lì, di carattere diverso, questo francamente non mi sento di esserlo, insomma. Io semplicemente, lui ha rilevato, perché ha fatto la lettura di queste cose che io avevo letto, che c'erano queste coincidenze. Io questo bisogno di chiarezza me lo porto dietro, e di definizione me lo porto dietro da sempre, proprio per quelle origini mie, diciamo, di studiosa, nel campo soprattutto della storia e della storiografia, che sono stati 5 anni della mia vita, poi, in fin dei conti, iniziali, noi sappiamo quanto siano formativi. Io questo bisogno di chiesa me lo porto dietro, poi sono ben lieta che mi si contesti l'uso che io lo faccio, se non sono stata chiara nel contesto, però in quel contesto, non in una discussione che è diventata talmente teorica da far diventare me il teorico di una vindicazione di quel tipo, insomma, perché francamente io sono dentro un contesto storico molto preciso e ci tengo a dirlo. sono dentro quel contesto storico, e in quel contesto storico la sua interpretazione, insomma, in qualche modo, scusate. No, vedi? No, c'è il problema, è sempre lì. Non è una mia come sistema, che è ognuno ha le sue maglie, io quando uso una maglia do la spiegazione di perché la uso e ognuno dà la propria. No, ma infatti appunto siamo qui da stamattina a discutere esattamente di questo, quindi va bene. Bene, adesso andiamo dalle suore. Allora,